Anatomy, viaggio nei mondi della voce, di Pino Insegno. Signori, bentornati, benvenuti. Domenica 31 luglio, voi lo sapete, la nostra trasmissione comincia sempre gratificando e sottolineando un compleanno importante. E oggi la fortuna ha unito le due cose, perché è il compleanno di un attore, doppiatore e quant'altro, un caro amico che avremo presto ospite qui in studio, ma era giusto salutarlo in diretta, non voglio dire l'età, però prima che si presenti in voce sua, meno telefonica, ascoltiamo come si chiamava in un altro film. Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del Nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio, padre di un figlio assassinato, marito di una moglie uccisa. E avrò la mia vendetta. Beh. In questa vita o nell'altra. Beh. Beh, lui non sta combinato così. Devo dire che è più felice. Oggi, signori, è il compleanno di Luca Ward. Benvenuto, Luca. Ciao Pino, ciao a tutti, buongiorno. Che bello. Senti, allora come ci si sente? Visto? In quella storia era un po' complessa, insomma. Massimo Decimo Meridio stava combinato peggio, insomma. Non è... Beh, povero Cristo, insomma. No, tu sei padre, sei marito fanfelice. Sì, insomma, non c'ho i legionari che mi seguono, oppure no. Sì, ce n'abbiamo altri. C'abbiamo Equitalia che ci può seguire. C'abbiamo Equitalia che sì, Agenzia delle Entrate, Equitalia, multe, i Velox. Certo, sarebbe bello con Luca sotto Equitalia, dice al mio segnale, scatenate l'inferno. Via, stiamo scherzando. Equitalia, bisogna stare attenti un attimo. Luca, mi hanno suonato, non è che sono loro, no? No, ammazza, è che vabbè, che Radio 24 e Voice Anatomy è seguita tantissimo. Senti, tu sai che la nostra trasmissione comincia sempre che poi con un attore doppiatore parliamo di voce, e vicino a me c'è un signor attore doppiatore della prima generazione, forse prima seconda generazione, che credo ci tenga tantissimo prima di cominciare a percorrere la sua storia e la sua vita bella, bella lunga, e se lo sarà ancora, a farti gli auguri. Lui è Vittorio Stanni, caro Luca, sta qui al mio fianco. Ciao Luca, auguri, auguri. Ciao, tanti. Grande, avvicinati, grazie. A quel microfono. Auguri tanti, Luca. Lui è del 1960, Vittorio. Luca, invece Vittorio tu? Sono tanti, so. quando è entrato in radio sia Alessia Navarro e Mauro Meconi, gli autori di questa trasmissione, Alessandro che saluto, il fonico, tecnico del suono, e saluto anche Milano ovviamente, come sempre, sono entrati e ha fatto, ma cavolo, è Clint Eastwood in Grande Torino, in Gran Torino. È vero che è uguale Vittorio Stanni a Clint Eastwood? Ci hai mai fatto caso, vero. Luca? No, Luca, mi no, vedi no, poco, ci ho fatto caso, c'è una faccia spettacolare. È levigata dal tempo. No, ma la cosa fantastica è che nonostante, vabbè, c'ha qualche annetto... 7-8. Quest'anno 78. Ma è un pischello. Io ti dico subito che quando è entrato in radio, ha guardato Alessia Navarro, ha detto, allora le do il mio numero perché c'è il saggio della mia accademia. Io ho fatto detto, rilassati un attimo, e santa miseria, capito? No, ha detto, no, tanto devo andare in Africa adesso, io sto là, non so che fai in Africa, sinceramente, non so se hai fatto un nido doppiaggio in Africa. Aiuterai i bambini, che ne so. Non aiuta lo so. I bambini, bravo, bravo Luca. Ecco, hai trovato la scusa, bravo, grazie. Bravo, no, si dice grazie Luca, grazie, no bravo. Luca. Grazie vero, Luca. Bravo, vero, no vero. Bravo Luca, grazie. Grazie Luca. È vero, volontariato. È vero, senti, è vero. Luca, poi volevo, visto che ci sei, ricordare una cosa molto bella che faremo insieme. Sono molto orgoglioso di questa bella avventura che vivremo a ottobre insieme io e te. E dal 24 ottobre per una settimana faremo uno stage insieme per sia giovani attori che vogliono capire come funziona il doppiaggio, sia per professionisti attori che vogliono prendere questa arte più vicina a loro, perché poi ridoppiandosi in un film certi attori italiani trovano delle grandissime difficoltà, e invece con la tecnica che si può imparare in qualche modo, soprattutto se già sei un attore, può essere... Per un attore è facile, insomma, capire la tecnica, tanto avendo le sue basi di recitazione forti, la tecnica poi è semplice, si impara. Perché hanno sempre molta paura di rovinare il film, mentre il film si può soltanto migliorare doppiando. Vabbè, ma quello è normale, Pino, è come se a noi ci mettono su una macchina di Formula 1, guida, manco parti. No, capito? è vero. Per cui io e Luca non faremo uno stage di macchine di Formula 1. No. sarà. E vi do anche i riferimenti, perché abbiamo un collaboratore straordinario che è Francesco Silella, per cui vi do intanto in anticipo, perché già stanno chiamando, perché già qualche notizia è uscita fuori, per cui il cellulare da chiamare per questa avventura insieme a me e a Luca è il 344 26 04 174. Non esce in sovraimpressione perché siamo per radio, ma poi ne parleremo ancora ovviamente a settembre. Luca credo che sarà il primo ospite, attore, doppiatore, che verrà qui a Voice Anatomy. Okay, ne parleremo poi con più intensità. Ve lo ripeto, 344 26 04 174, Francesco Silella, oppure il sito che è più facile, masterclass007. Bellissimo, questa citazione pura di Luca. Luca, c'è anche la moto targata 007. Sì, me l'hanno venduta. No! Sì, no! Me l'hanno venduta, ho resistito quasi 20... è del 2000 quella moto, pensa. Me la regalarono, quella targa, me la fecero uscire apposta, sì. Perché all'epoca facevamo Brosnan. Sì, Pierce Brosnan, mi chiamo Bocco. Non l'ho mai venduta per quel motivo. Mi ricordo bellissimo. Un ragazzo la venne a vedere e fa: ah, figo, c'è pure la targa 007, non la vendo più. E invece è andata via, non è stata Equitalia. Senti, Masterclass 007 chiocciola Yahoo. .com. È difficile, è scritto Yahoo, ma insomma lo sanno ormai quasi tutti. Anche questo è il sito dove poter prenotarsi, anche perché non sono posti infiniti. E già le telefonate, nonostante non siamo usciti in comunicazione, sono già abbastanza. Sono veramente contento di questa bella avventura. Luca, visto che è domenica, visto che è la tua festa, non voglio interrompere la tua giornata insieme a Giada, la tua splendida moglie, Giada Desideri, che... abbraccio forte, forte, forte, e vorrei anche lei ospite qui, perché bene o male parliamo di un'attrice, no? Esatto, e anche una signora attrice. Per cui miseria. In giorni diversi, però, non starete insieme, non mi metto insieme. Vi dico, perché quando almeno, vieni... almeno in radio, se no. Esatto. Dio, pure qua. Perché vieni tu e lei sta che tu. Viene lei e tu stai che. Insomma, bisogna. Bisogna. Esatto. Poi perché... tu lo sai, sei papà. Capirai. Certi meccanismi. Assolutamente. Va bene, Luca Bello, tanti tanti auguri, davvero. Mi ha fatto veramente piacere questa ultima puntata, poi di quest'anno, di questa stagione di Voice Anatomy, chiuderla aprendola con te, poi dando appuntamento a settembre. Ti voglio bene, Luca. Vittorino ti manda con grande affetto un ti voglio bene, se l'hai sentito. Ma... grazie, ma certo, ma figurati, io siamo cresciuti praticamente insieme. No, t'ho visto io ragazzino. Lui t'ha visto ragazzino. Posso raccontare velocemente un episodio. Vai, ci abbiamo ancora qualche minuto del primo blocco, velocissimo. Vai. No, ma non ti preoccupare. Io, insieme ai figli di Glauco Onorato, che era un altro gigante, sì. E Vittorio e Glauco stavano praticamente sempre insieme. Dei ragazzetti un po' più grandi di noi, io stavo a giocare con Ivan, con i figli di Glauco, con un pallone di cuoio che mi aveva portato mio padre dalla Svizzera, e questi ce l'avevano fregato, e noi stavamo lì seduti sulla strada che era sterrata all'epoca, davanti alla scialuppa, tristi. Arrivano loro due con 124 spider. Mazza, due spacciatori. Ragazzi, due spacciatori. Spacciatori, ma poi che. Oh, ragazzi, ma che avete fatto? Ci hanno fregato il pallone. Oh, sono saltati dalla macchina. In 3 secondi hanno fatto una strage e ci hanno ridato il pallone. Vero. È così, è andato. Vero. E perché poi Vittorio ci ha pugilato pure, attenzione. Aspetta, io andavo avanti sempre Glauco. E Glauco era grosso. Era una montagna. Glauco Onorato. Che era la voce di Bud Spencer, poi ricordiamo, il grande Glauco Onorato, una voce meravigliosa, e non solo, ovviamente. Oliver Reed nel Gladiatore, vabbè ragazzi. Stiamo parlando di grandi. Io ti racconto una cosa semplice, veloce. Vai, così poi salutiamo. Eravamo giù in compagnia con Salerno e Salerno. Enrico Maria Salerno, se no sembra che stavi a Salerno con qualcuno. No, Enrico Maria Salerno. Esatto. E lui, sai che faceva la corte sempre a tutti, al ristorante. Strano, tu no. Beh, vabbè, però io lo facevo in maniera un po' diversa. Allora lui a un certo punto faceva, ma c'era anche il mafioso, il grosso mafioso a Catania, no? Allora questi qua, zitti zitti, dopo un po' escono, esce Salerno e gli vanno dietro con la pistola in pugno. Ma dai, ma era la moglie di qualcuno di questi signori? È sicuro. Beh, dai. Allora a un certo lui... punto chiamiamo subito Turi Ferro, sì. Per cercare di mettere a posto la situazione. Grande attore siciliano, sì, catanese, sì, straordinario. Sì. Ed erano rimasti nel ristorante gli altri due del mafioso. Allora ha detto a Glauco: ma che succede qua? Ma che casino? Ma lascia aperto. Usciamo tutti, lui resta dentro, sentiamo dei casini terrificanti là dentro. l'aveva stesa in tre, tutti e tre. Glauco Onorato ammenata a tutti e tre. Sì, grazie. Se no al limite chiamavi Peppino Rinaldi che faceva la voce di Don Vito Corleone e salvavate. E quindi quello ha chiamato quelli, lasciate perdere, finito. Meno male. Luchino, un abbraccio enorme, grazie e auguri. Grazie, davvero, anche auguri. A voi e a tutti. Grazie. Ciao, buona domenica, ciao. Amico mio. Ciao. Ciao, buon lavoro, ciao. Grazie Luca. Ecco, Vittorio. Bella assai. Bella storia, bello. Noi cominciamo, tu lo sai perché sei un grande assiduo ascoltatore di Voice Anatomy e sai che noi cominciamo sempre salutando chi nasce in questo giorno. Non parliamo del contrario, non ci piace chi ricordare, magari non c'è più, ma è nato quel giorno. Noi ci piace cominciare almeno questa trasmissione positiva. Tu quando sei nato? 17 dicembre. 17 dicembre del 38. Del 38, in mezzo alla guerra. In mezzo alla guerra. Infatti mi hanno sparato dietro i tedeschi per andare a rubare qualcosa per mangiare. E lì che hai cominciato. Lì ho cominciato, bisogna difendersi, capito? Lì si cresceva in fretta, mi sa. Sì, che sì. Poi pure questi racconti si perdono ed è un peccato. Tempo. No, è un peccato nel senso che la storia va ricordata sì sui libri, ma sappiamo che sui libri può essere raccontata in un altro modo. Porco. Invece è bello sentirla e ascoltarla da chi ha vissuto certe realtà. La sofferenza è stata parecchia. Sì, Quell'epoca lì è stata brutta, sì. Eh sì, perché non si vedeva l'alba, vedevi solo il buio. Mai. Io racconto questa cosa, parlo anche perché per sapere dove è cominciata poi la carriera di un artista che inizia nel 1938, apre gli occhi, il primo vagito non era certo a sync su un film, ma era... Ma poi nel 46, così, dopo la guerra, finita così, mi chiama Visconti Benprovino e vinco il provino facendo La vita col padre, un ragazzetto di... Questo come attore? Come attore. Ho fatto tanto teatro con Visconti, sono 5 anni, Morelli Stuppa, queste cose qua. Parliamo di Luchino Visconti. Sì. Che bella cosa. Sì. Cioè, mi dispiace non aver sfiorato nemmeno questi signori, sì, andando a teatro, perché io ho 57 anni. Ma guarda, lascialo lì, ti intervisto io. Sì, cioè, sì. Tu sei bravissimo. Te. No, lasciami. Sei bravissimo, hai fatto questa cosa sul doppiaggio che è meravigliosa, che tira un po' su questa categoria che ormai con la velocità che c'è è andata un po' a disperdere. Si è confusa un po'. Beh, ci chiedono veramente degli sforzi enormi. Adesso si entra in sala e il film deve uscire, metti il Trono di Spade, che tu conosci bene, il lunedì ti chiamano, il venerdì va in onda. Il rischio è di non fare un adattamento degno e un doppiaggio degno. Certo. Devo dire che è così in tutto il mondo, ma noi restiamo i più bravi. Ancora sì. Restiamo i più bravi. Sia come adattatori che come tecnici. Sì. Che come... Perché si corre un po' tutto il mondo. Però ma io ho continuato a fare teatro, ho fatto una cinquantina di spettacoli con tutti, un po' tutti, l'ho conosciuto tutti. Con Gasman ci sono stato 6 anni, pensa tu. Pensa che bello questa storia. Sì. Ma ci soffermiamo un po' di più però su questo, perché questo è il primo blocco e sta quasi per terminare, mancano 2 minuti. Però vai avanti tu. No, io qualcuno se no mi strilla, dice Pino, a te stai zitto un attimo. No, sto zitto io. No, tu devi parlare, però voglio che racconti bene, per cui in un minuto mi dispiace chiudere il primo blocco con te che rimani a metà. No. Però Vittorio Stagni, ecco, nasce nel 1938 e subito è cominciato con Luchino Visconti. Visconti. Chi ti ha portato lì? Nel senso, mamma e papà? Mio padre faceva l'amministratore della compagnia e quindi da lì ho cominciato. Sono andato avanti. Poi nel doppiaggio, con questa brutta voce che avevo, lo volevo spiegare anche dopo e sottolinearlo. Quando parliamo di voce, non parliamo di bella voce, parliamo di voce con le intenzioni giuste. Certo, una voce educata, una voce anche da caratterista. Cioè Carlo Romano che aveva una brutta voce, faceva Jerry Lewis o faceva... Sì, però allora io la mia voce era un po' particolare, non era una bella voce, quindi allora andavano i vocioni. Cigoli, eccetera. Allora, continueremo questa bella chiacchierata, però volevo chiudere con un piccolo intervento registrato tuo per capire la tua storia. Io proprio farei ascoltare uno dei film capolavoro che sono I Guerrieri della Notte. La famosa battuta meravigliosa, un film epocale. Chiudiamo con questo primo blocco e poi torneremo con l'amico Vittorio nel secondo intervento per questa puntata di Voice Anatomy, quest'ultima puntata di luglio. Vai con i Guerrieri della Notte. Guerrieri, giochiamo a fare la guerra. Guerrieri, giochiamo a fare la guerra. Guerrieri, giochiamo a fare la guerra. Guerrieri, giochiamo a fare la guerra. Guerrieri. Questa reiterazione della frase, perché anche in originale era identica. Warriors, sì, come on to play. E devo dire che Izzo però era... Renato Izzo era il direttore dei Guerrieri della Notte. Beh, Izzo è stato il direttore del Padrino, di tante, di tantissime cose. Ne parliamo. Ne abbiamo parlato qui con tutte le figlie, tutte e 22. Sì. Tutta la famiglia Izzo. È vero. Però bella, per cui la voce era giusta. Cioè la voce deve essere giusta. Non è tutti come Luca, oppure le voci timbrate, certo, bellissime. Ma poi quell'attore lì l'ho fatto in altri film. Sì, quella voce, sennò, altrimenti... Carattere. Chi caratteri? Hanno trovato la formula giusta, come Ferruccio pure. Ferruccio Amendola all'inizio pure ha trovato delle grandissime difficoltà, perché aveva una bella vociaccia, ma andavano di moda le voci cicoli, quelle. Poi andiamo tutti insieme. Ma per fortuna poi è arrivato Ferruccio pure. Beh ragazzi, poi ne parleremo anche di lui. A tra pochissimo, perché ricordate, sì, è l'ultima puntata per questa stagione, ma Voice Anatomy è appena cominciata. Voice Anatomy. Bentornati signori, Voice Anatomy, domenica 31 luglio, ultima puntata di questa bellissima stagione insieme che è cominciata quasi un anno fa, scherzando e ridendo, grazie a Radio 24 che ha creduto in questo progetto sulla voce, che poi è l'elemento di comunicazione più importante al mondo, no? Vittorio Stagni al mio fianco, grande attore, grande doppiatore, con la faccia di Clint Eastwood, abbiamo scoperto. Io non ci avevo mai fatto caso, è vero. Poi lo vedrete sul nostro sito di Voice Anatomy su Facebook, le fotografie e quant'altro, per capire che è vero, assomiglia a Clint Eastwood. Dai, ci sta. Ma mai detto nessuna donna. Esagerato. Vabbè, dai, no, perché sai, la faccia levigata dal tempo, questo bianco grigio, queste rughe da skipper, ce l'hai, dai, vita vissuta. Insomma. Vita vissuta, sì, quello sicuro. Beh, ma tu sei sempre stato così, però, non è che sei stato mai a faccetta giovanile, il pischelletto, no, certo. Come si dice. Abbiamo sentito, prima di chiudere il primo blocco, bellissima interpretazione di questo I Guerrieri della Notte, che vi invito a vederlo, soprattutto le nuove generazioni, che magari certi film sono sfuggiti. La regia di Walter Hill, se non sbaglio, un film bellissimo, è stato quello che ha aperto poi la moda dei film sulle bande, eccetera. Sì. E ti dico questa piccola cosa mia, anche se dovrei fare un passo indietro perché sono il conduttore, qui in Italia poi andava di moda, facevano lì un film del genere, qui facevano Tornado, hanno fatto Guerrieri e qui hanno fatto Fuga dal Bronx. E io ho fatto le mie prime tre pose al cinema in Fuga dal Bronx. Ma dai. Non parlavo. Ballavo il tip tap e uccidevo, questa doveva essere. Stavamo dentro una fungaia a Roma, in una fungaia. Cioè, ti rendi conto? Però ti sei divertito. Ma sono divertito, sono morto dal freddo. Stavamo al 100% d'umidità e io devo solo perché ballavo il tip tap all'epoca con i miei colleghi dell'Allegra Brigata. E lì venne uno e ci scelse in tre per fare questi ballerini che uccidevano, questa faccia tipo Arancia Meccanica. Mi sono morto dal freddo, ho preso 25.000 lire al giorno. Beh, però ho fatto però pure lo so, ma ho fatto pure cose supposte, le cose una febbre a 40 subito dopo. Per cui è stata questa la mia grande, uno dei miei film dimenticabili, anche quello è un film dimenticabile che ho fatto. Sì. Invece Vittorio, stavamo cominciando a percorrere la tua storia. Luchino Visconti. Com'era Luchino Visconti? Luchino Visconti era un duro. Parlava poco, fumava tanto, non c'era un momento che non vedevi una sigaretta sulle tette. Infatti è morto malissimo perché ormai era pieno, era un fumo lui. Sì, lui e Mastroianni, tutti questi grandi sigaretta. C'era anche Mastroianni quando io feci un altro spettacolo con Visconti. L'hai conosciuto anche come nel Marcello? No, eravamo amici, sì. Sì. Noi parlavamo qui l'altra settimana, Mastroianni, Franco Interlenghi. Sì. Io spero che le nuove generazioni abbiano un po' di curiosità quando noi facciamo questi nomi e magari facciamo ascoltare qualcosa o raccontiamo le storie, perché perderli è un peccato. Come dicevamo, la storia, anche il primo intervento che stavo parlando della guerra, eccetera. Sì, cioè, sì, qualcuno che ti faccia amare, perché noi siamo quello che siamo stati, insomma, siamo figli di queste persone. Sì, però qui si perde molto il ricordo di certa gente. Guarda Salvo Randone, che era enorme. Sì, grandissimo personaggio anche lui, Romolo Valli. Hai capito? Cioè, voglio dire... Non... Dovrebbero le istituzioni, un po' come la RAI, che insomma è al servizio, dovrebbe essere della... Dovrebbe dedicare proprio mensilmente un ricordo, come noi facciamo per radio magari, e raccontarlo, per far venire la curiosità delle persone di andiamo a vedere cosa aveva fatto di così bello. Come le musiche. Le musiche si tramandano e sono immortali. Io lo dico sempre ai miei figli, vedete, state ascoltando una musica che è uscita 38 anni fa, 40 anni fa, Stairway to Heaven dei Led Zeppelin, dico per dire. Mentre questa che stai sentendo adesso, dell'Eminem di turno, che è anche bravo per carità, ma altre canzoni che cantano sull'estate, non le sentirete più. Certo. Per cui cerchiamo di recuperare, cioè, i Pink Floyd si ascoltano. Sì, dovrebbero proprio ricordarli, dedicare poi una giornata. Ugo, io la mia paura è che l'altro giorno ho detto a un ragazzo, proprio per capire, cioè, aveva avuto 15 anni, ho detto, chi è Nino Manfredi? E mi ha detto, con chi gioca? Cioè, capito? Addirittura. Eh sì, vabbè, diciamo, ho trovato forse una persona che non era per niente avvezza a tutto questo. Certo, sordi lo ricordano. Però ecco, questa... Però vedi, sordi lo ricordano perché continuano a fare anche film. Esatto. Fanno grandi serate con due o tre film suoi. Quello sì. Per cui tu hai cominciato con Luchino Visconti, proprio teatro, per cui il massimo... Poi mi sono dato un po' la musica, ho fatto anche qualche... Come cantante o come spettacolo? Musicista. No, musicista. Ma sei pure musicista, non sì, lo sapevo. Un po' il sax, la chitarra, il pianoforte. E dopo 4 anni di studio così ho cominciato a fare dei piccoli, delle melodie per degli spettacoli, e da lì sono andato avanti fino a fare le musiche per Albertazzi, in teatro, sono andato avanti così. Non questa voglio cosa... parlare troppo di questa cosa, no, però voglio dire, insomma, dillo, se qui sei tu l'ospite, non io. Vabbè, insomma, ma non voglio così incensarmi, capito? Cioè, ma siamo qui per raccontare, non ti stai incensando, no, ho fatto è giusto. Delle musiche per... Perché magari una persona ti ha riconosciuto per quella voce o quell'altra, eccetera, ma si è perso gran parte della tua... Come me, io ti conosco bene, ma non sapevo per un musicista, sì, per esempio. Sì. Lo leggo perché i nostri autori sono molto precisi. Infatti, vedi, adesso che io faccio parte di una scuola perché mi hanno invitato, posso dirlo? Devi dirlo. Allora, per esempio, chi volesse informarsi su questa scuola, www.performarti.it, c'è questa Carla Corsi, una grande cantante e musicista, Giorgio Serrao, Salvo Miraglia, che fanno recitazione, e il coreografo del Bagaglino Michel. E cercheremo di fare un musical a ottobre con questi ragazzi. Con i ragazzi, sì. E questa è la cosa che mi diverte di più, e vedo che qualcosa viene fuori ancora. Ma sì, perché uno deve, non c'è stato un ricambio generazionale, anche perché quelli infatti. Bravi non si sono mai dati per insegnare qualcosa a qualcuno. Gasma l'ha fatto con la bottega. Per un attimo, anche Gigi Proietti. Fa, certo. E poi purtroppo magari si è fermata per motivi anche economici. Perché devono lavorare e poi costa, una scuola costa. Sì, guarda, ne so qualcosa. Ecco, apposta, per tu nove, lo sai, per nove ce anni l'hai. Ce l'ho avuta gratis, ecco, con i soldi, ovviamente con i programmi europei, eccetera, si poteva fare. E l'ho sempre fatto. Dopo si ma infatti anche io faccio gratis. Perché è complicatissimo. Voglio mettere quello che ho imparato a disposizione dei giovani. Ma poi è un modo più bello del mondo, sia di tramandare che di tramandarsi. Sì, nel senso bravo. Che ti aiuta anche egoisticamente a vedere che c'hai dei figli che ti ricordano, che ti tengono in vita. Sì. È anche un fattore egoistico importante. Ah, mi tengo però in vita io così. Esatto. Certo. Sì, giovani, ma che scherzi. Certo, ti ringraziano, ti gratificano. Io dico sempre, ma lasciamoci farsi i complimenti. Certo. È benzina della nostra, l'applauso è proprio la nostra benzina. Certe volte non c'è altro che quello, anche se sembra... La cosa più bella che io mi ricordo è che ogni volta, anche se facevi... Con Amleto abbiamo fatto, con Gasman Amleto, io facevo il trapezista perché ho fatto 6 mesi di circo con Orfei. No, di tutto ho fatto. Sei lo stuntman, non lo sapevo. Sì, una cosa sei magro e sei asciutto. Ti giuro. E io mi ricordo che anche ogni dopo 10, 20, 50 sere, quando entravi in palcoscenico c'era l'emozione ancora forte. Come se fosse la prima, capito? Deve essere così. Deve essere. Ma qualsiasi lavoro deve essere così, vivilo come se fosse il primo giorno, certo, o come l'ultimo giorno. Certo. Però lo dico, è un grande novità. Mi piace invecchiare, perché a questo punto invecchiare vuol dire anche ormai... Ma il trapezista non lo vuoi più fare, però. No, quello no, quello no, però ancora hai qualche cosetta. Sì. No, perché sei sempre asciutto, sì, magro, sì, un po' ginocchietto, mi hai detto fuori uso. Il ginocchio ho un po' capito, fuori uso, a sì. 78 anni io ho i tendini che sono fuori uso e ho 20 anni di meno. Questa è una favola. Ah sì, va bene. Per cui pure quello facevi? Pure sì, sì, pure... ho fatto di tutto. Perché quando facevamo il mattatore con Gasman si faceva nel circo Orfei e io sono rimasto poi lì da loro. Il mattatore era lo spettacolo quello di Vittorio Gasman, sì, televisivo? Sì. E tu ti sei fatto pure il circo Orfei, per cui una grande... Con chi? Facevo... Con Liana, con Moira Orfei, con... Col padre, perché... Al padre, qui parliamo ancora prima. Sì, io ero ragazzetto, quindi facevo acrobazia, clownerie, insomma, capito? Infatti... Beh, l'Arlecchino servitore dei due padroni, c'è stato sempre il grande... Non mi ha fatto Arlecchino. Moretti. Qui parliamo di Strele. Strele pure. Ci ha lavorato? Sì, ci ho lavorato, ho fatto una sostituzione di un attore, perché non... poveraccio, cioè, se n'era andato, e sono andato a Milano e l'ho fatto, e lì devo dire che ho avuto una bella emozione, perché insomma l'hai toccati tutti, devo dire la verità, ho conosciuto dell'ambiente le più belle persone, quelle che hanno dato tanto al teatro, la Morelli, Stoppa, Cervi, cioè... E vedete, io lo dico sempre da questi microfoni, quanto è importante esserci da un certo punto di vista, non dal punto di vista soltanto da protagonista, perché senza i comprimari, i coprotagonisti e gli acrobati non si sarebbe fatto niente. Sono fondamentali gli attori. Poi dici, c'è Gasman e poi è finito. Gasman da solo non può da Hamlet. No. Servivano Rosencrantz e Guildenstern, serviva Ofelia, servivano tutti e gli acrobati. Senza quelli non si fa. Vittorio era uno di questi. Ha fatto i salti mortali nella vita, Vittorio per vive. I salti mortali. Voglio ascoltarmi un altro pezzo storico, perché tu hai doppiato quest'attore Rick Moranis, tantissime volte, che uno dice chi è, poi lo vedi e capisci chi è. E adesso ci sentiamo un momento, non so se da Tesoro mi si sono ristretti i ragazzi, sì, da quello lì, è quell'attore caratterista, e poi ci sentiamo anche Balle spaziali. Bravo, poi io. Quando capirete chi è, un momento di Rick Moranis in Tesoro mi si sono ristretti i ragazzi, che è una trilogia molto divertente prodotta da Spielberg, eccetera. Vai. Dov'è il mio divano? Ma che è, sordo? Ma non capisci? Siamo troppo piccoli, non ci sei. Papà! Non ci capisco niente. Che giornata! Tutta colpa tua. Ci ho lavorato sopra per 5 anni. Mi ho sempre complicato la vita. Resta lì, c'è vetro dappertutto qui dentro. La voce non t'è cambiata tanto, Vittorio, lo sai? Sì, un po' più leggera quella, però sì, è vero. No, una cosa molto divertente. E qui serviva una voce da caratterista. Sì, non si poteva doppiare lui dicendo, i miei figli, dove sono i miei figli? No, certo. Per questo dico sempre, non è perché tutti pensano la bella voce è difficile, non è la bella voce, la voce giusta. Infatti era giusto anche nel Salto nel Buio con Martin Short. Sì, un altro. Ha fatti tanti. Quanti più o meno? Di film? Doppiati. Fra protagonisti e particine? Sì. Ma se sono 4.005! Signori, resta con noi, visto che sono 4.005, Olio ST Vittorio Stani. A tra poco con Voice Anatomy. Voice Anatomy, Bentornati signori a Voice Anatomy, domenica 31 luglio, al mio fianco Vittorio Stagno, per gli amici Vittorino Stagni, piccolo ma energico, una piccola bomba di energia. 78 anni e non sentirli, forse perché è diventato pure sordo crescendo, perché uno, li sente. No, e abbiamo cominciato facendo gli auguri all'amico e collega Luca Ward, che sarà ospite alla prima puntata a settembre di Voice Anatomy. E volevo ricordarvi che ci sarà questo bellissimo master dal 24 al 28 insieme a Luca, io e Luca insieme. Ridò l'indirizzo, che è masterclass, ovviamente con due S, 007, ma voi lo sapete di Radio 24, siete molto attenti, mi correggono sempre. Ripeto, masterclass 007@yahoo.com, o il cellulare al quale vi risponde Francesco Silella, che è il nostro organizzatore, che è 344-2604174. Va bene, invece continuo con l'amico Vittorio Guerrieri. Abbiamo, sì, Vittorio Guerrieri, Vittorio Stagni, per un momento Vittorio Guerrieri, un altro amico doppiatore, ma molto più giovane, c'ha l'età mia, per cui siamo bambini noi. Siamo tutti cresciuti all'ombra vostra, Vittorio. Però ne parlavamo prima di andare in onda. Tu, a parte questi grandissimi, a parte insomma, fra Luchino Visconti, Slayer, il Mastro Ianni, Gasma, Costa, Salvo Randone pure mi hai detto che hai conosciuto. Sì, come no, ho fatto spettacoli con lui. Tu hai lavorato con la prima generazione del doppiaggio. Sì. Emilio Cigoli, Panicali. Che bella emozione, erano Sibaldi, Rinaldi, Peppino Rinaldi, credo che sia il più grande. Più grande di tutti, probabilmente il più grande di tutti. Da Marlon Brando a Peter Sellers, passando per Jack Lemmon. A proposito di Peter Lemmon, io facevo il doppiaggio con lui della Pantera Rosa, facevo il cameriere. Ma chi? Cato? Sì. Cato eri tu? Sì. Ma vedi, no. Cato, attenzione! Eri Cato, vedi? Scusami, non ci ho fatto... Ma sì, tu hai detto 4.500 doppiaggi. Vitto, sei stato più in sala te che i minatori, perché... Sì, adesso ci sto meno perché mi amano un po' meno, però... Ma no, ti amano un po' meno. Queste sono cose che non devono succedere, secondo me, perché la storia va rispettata. Non è... Uno può stare simpatico a tutti, è ovvio. Ognuno può trarre le proprie conclusioni da una voce. Ma in America, per esempio, i valori sugli attori, i vecchi attori, sono molto più considerati, sono molto più... Sono più bravi anche a far finta del niente. Durante i premi in America tu li vedi che sono inquadrati, lo sanno perfettamente. Quando vince uno di quelli e quell'arti non inquadrati, sorridono e applaudono e si commuovono. Dentro di loro saranno distrutti dal fatto che hanno perso. Però in quel momento leggi soltanto la gioia di che uno di loro ha vinto. E magari può essere anche vero in alcuni casi. Sono più bravi a volersi bene, cioè lavorano di più insieme, cantano di più insieme. I film comici ci sono tutti, quelli del Saturday Night Live, tu vedi i film che c'è, Bill Murray, Martin Short, Steve Martin. Poi quelle scuole lì sono straordinarie. Capito? Lavorano insieme Adam Sandler, Ben Stiller, Will Ferrell, eccetera. Sono insieme, sempre. E si danno una mano. Perché si dovrebbe fare anche qua. Ma certo. Invece non io sono sempre di quest'idea che ci dovrebbe essere più collaborazione, perché il giorno che magari poi uno di noi non ce la fa, gli altri arriverebbero in soccorso. Se tu invece hai sempre vissuto per gli affari tuoi, perché hai avuto il successo, eccetera, quando arriva il momento che arriva, il momento dell'insuccesso, sei solo. Sei solo. Come diceva John Wayne, tutta la gente che incontrerai salendo, la rincontrerai scendendo. Come no, certo. Allora. Grande frase questa. Capito? Lei diceva pure un'altra, diceva, ricordare questo come faceva Cicoli, quando ti alzerai una volta di più di quelle che sei caduto, allora sarai un vero uomo. Questo detto da Cicoli. Che poi John Wayne non aveva sta voce così bella. No, ce l'aveva anche in originale. Leggera. Esatto. Sì. Perché prima poi le voci nell'immaginario collettivo erano quelle vere. Cioè, quando tu sentii Cary Grant, che era il grande Gualtiero De Angelis, per mia nonna e mia madre, la voce di Cary Grant. Parli di un attore che è moderno adesso. Sì. Senti un film vecchio di Gualtiero De Angelis, e Maglio anche. E le pubblicità, quando quelle voci facevano le pubblicità, non era Gualtiero De Angelis che faceva la pubblicità, era Cary Grant. Certo, per cui avevi il doppio talent senza volere, c'era questo immaginario collettivo. E non si disperdeva il doppiaggio dell'attore. Invece adesso magari lo fa uno, poi lo fa un altro. Sì, adesso c'è un ping pong fatto economico, hai capito? Per cui a sì, volte... anche delle voci, questa voce assomiglia esatto, più a quella esatto. Al film, chiedono il provino esatto. Quando uno dice, beh, ma insomma uno... ancora io faccio i provini su Sacha Baron Cohen, che da pensato. Borat fino a oggi Alice attraverso lo specchio ho sempre doppiato pensato. Io sì, cambiando sì, poi sì. La voce cioè, questo succede, è un po' assurdo, succede. Capito? È assurdo. Sì, certe volte sì. Quando hai cominciato il primo turno di doppiaggio? Quando sei entrato in sala? Perché hai cominciato con Visconti? Il primo turno di doppiaggio l'ho fatto dopo Visconti, facevo molto teatro, fece Cesare e Cleopatra con Ricci, La Magni, insomma. Andai a fare un provino di doppiaggio con Carletto Romano. Carletto Romano è la voce di Jerry Lewis. Esatto, esatto. E lui mi sentì. Dice sì sì, sarei bravo come attore in scena, però il doppiaggio per te, guarda, penso che non lo farai mai nella tua vita. Ho visto lungo pure lui. Così mi disse. E io un po' così. Ci sei rimasto male. Ci sono rimasto malissimo, malissimo. E poi dopo qualche anno ho cominciato. E poi mi chiamò lui e glielo dissi pure. Ah, si era scordato? Certo, si era scordato. Ho detto, dico, certo. Ma lei mi fa fare sto protagonista di 18 anni così, ma lei mi disse, no, devo fare il doppiaggio. Sì, ma sono cambiati i tempi. È vero che cambiarono i tempi. Perché anche grazie ai tempi che cambiarono, Ferruccio Amendola, che è un tuo certo, vicino certo, caratterista certo, era. Certo, faceva certo, Cowboy 3, certo, Vecchietto 2. Certo, certo, e certo. Poi ci fu l'antieroe hollywoodiano e si passò dal bello con la voce bella esatto, al bruttarello esatto. Come Dustin Hoffman esatto, zozzo certo, sporco certo. Il De Niro è molto certo, reale come certo. Recitazione per cui servivano delle voci più vere meno artefatte meno classiche ma poi più buttato reale, più buttato certo, e per cui certo. C'è stato lo spazio voi vi siete fatti largo infatti, lì dentro io ho imparato molto da Rinaldi da Peppino sì. Questi erano veri maestri Sì, devo dire proprio che sì. Io stavo lì con l'orecchio teso, come in teatro, stavo in quinta a sentire Rush quando facevo il musical con lui. Hai fatto pure le come non suonava in scena, sì. Nel mio piccolo non saprei, e il testo era di Costanzo. Ah, perché è vero, pure Maurizio c'ha ne tanto. Sì. Toccherà sì. Chiamarlo perché però continua, voi, voi senato mica la sua, è sì, una voce continua, caratterizza. Continua. Sì, adesso si è alleggerita un po', perché prima è tutto un po'. Cioè, ancora adesso. Adesso è un po' più giù. Si è alleggerito, si è ringiovenito. Sì, però un bel cervello. Vabbè, sì, parliamo di comunque persone, vuoi o non vuoi. Ripeto, il solito vecchio discorso. Sono persone apprezzabilissime. Poi uno può criticare tutti e tutto, certo, come no, però certo, io ho avuto certo. Modo insomma di condividere con lui 13 anni di Parioli e di tante trasmissioni in diretta con lui e Buona Domenica con lui. Lui è uno tignoso, è sì, un ragazzino, sì, sì. Non può pareggiare lui. Non può... Poi è pignolo. Non facciamo ferire, ogni volta che cominciamo una puntata di Buona Domenica non si fanno feriti qua, non si fanno prigionieri, dritto verso la meta, certo. Grande decisione, magari un giorno avremo... la possibilità di averla, almeno per telefono sicuramente. Tu hai doppiato tantissimo, hai fatto tantissimo. Volevo sentirmi un altro Rick Moranis, se si pronuncia così, me lo auguro, qualcuno sì. Mi riprenderà sicuramente. Un altro film strepitoso, molto divertente, di Mel Brooks. No, Mel Brooks è Balle Spaziali. Ah, Balle Spaziali. Dove facevi il Darth Vader sì, col capoccione sì, grosso, sì, sempre sì, lui. Sentiamocelo, caro Alessandro. Prima che tu muoia, c'è una cosa che dovreste sapere di noi, stella solitaria. Che cosa? Sono stato il primo compagno di stanza del cugino, del nipote, del fratello di tuo padre. Che comporta per noi? Assolutamente niente. Sì, questo attore che poi lui ha fatto Ghostbuster pure, non era uno dei Ghostbuster, no, però non l'hai doppiato tu. Esatto, sì, volevo dire questo, no, questo lo so. Infatti, anche qui c'è stato... Chi era sì. Che lo faceva lì? Non mi ricordo. Pare Rossi, Massimo Rossi. Massimo Rossi, credo, che poi non credo, ha una voce caratterista, insomma. Sì, Massimo. Sì, bravo. Vabbè, ma è un'altra famiglia. La cosa bella che ho fatto, Balle Spaziali va bene, ma Salto nel buio. Sì. E poi l'altro anno un bellissimo film che era quello sulla vita di Cantorà, il mio amico Enrique. Che... È molto bello quel film sì. Piccolo ma è molto interessante. Ma ha avuto un gran successo sì. Però insomma. Enrique Cantorà poi è un personaggio pazzesco, sì. Pazzesco, matto, vero? Sì, sì, sì. Ma un personaggio di fantasia, se vedi sì, i pezzi vero, delle sue vero. Partite vero, o quello vero. Che ha combinato, andate vero, a guardare vero. Quello che ha combinato, vero, quando è uscito vero. Al campo quel salto addosso al tifoso con quei piedi in faccia, vero, cioè, vero. Pazzesco. Senti, teatro hai più continuato poi? L'ultima cosa che ho fatto al Parioli proprio con Gasman nel mio piccolo, non saprei, no, com'è l'aspetta. Vabbè, un recito con Gasman, Paola, Gasman, Pagliai, facevamo questo spettacolo che andò anche a Torino. Sì, sì. Poi devo chiamare tua figlia qui, perché poi è e una ci figlia... fece anche le musiche con le canzoni. Ma tu, niente, fai tutto. Con te si risparmia. Con me si risparmia, sì, è vero. Mi te posso pagare tutto, no? La faccio è vero, un forfè. Qualche volta ho lasciato anche perdere i soldi perché volevo fare qualcosa di esatto, grosso. Musicista, attore, sì, sì, grazie, sì. Dico, te pago per uno e tu dici grazie no. Ilaria Stagni è la tua degna... Sì, tua degna continuazione perché... Forse Ilaria... più brava di me. Tu dici che è più bravo di te. Ma un altro tipo di vocalità, comunque. Però come recitazione... Infatti l'avremo ospite quanto prima Ilaria, perché insomma la conoscono tutti quanti. Ma poi tu pure hai doppiato delle donne, però. Sì, sì, vero, vero. Allora, una me la voglio sentire subito, perché è in un altro film storico, che è I Goonies. Ah, sì. Dove tu fai la madre di quelli che rapiscono i bambini, sì, e tu sei la madre di questi bastardi che rapiscono i bambini, che penso io l'ho scoperto da poco che eri tu. Leggendo, non mi ricordo, non sapevo, non dico, ma chi è santa, una donna che fa sta voce così da caratteristica? Invece poi ho letto Vittorio Stagni. Invece c'è anche poi Getta i ragazzi dal treno. Sì, è vero, il film di Danny DeVito. Sì. Getta la mamma dal treno. E noi ce l'ascoltiamo quest'altro pezzo storico dove Vittorio Stagni interpreta questa Anne Ramsey, che ha la voce particolarissima. Vai. Con le ditine piccoline cicciottelle, poi con le manine paffutelle e poi con le braccette rotondette. Allora, dimmi subito dove sono i tuoi amichetti. Nel camino. Non dire bugie. Giuro su Dio, siamo andati nella soffitta del padre di Mickey e abbiamo trovato una mappa che diceva che sotto questo posto c'è un tesoro sepolto. Andiamo, non ci raccontare stupidaggini. Ehi, ragazzino, o ci racconti tutto o ti frulliamo. Tutto. Tutto, va bene, vi racconto tutto. Quando ero in terza ho copiato l'esame di storia. Quando ero in quarta ho rubato il parrucchino di zio Max e me lo sono messo sul mento per fare Bosè alla recita della scuola. Quando ero in quinta ho buttato per le scale mia sorella Heidi e poi ho dato la colpa al cane. Questa è una delle scene più divertenti dei Goonies. Era veramente bella. E io non capivo perché sembra una voce da donna. Sì. Però poi adesso... Ho fatto un'altra donna che era... Donna che ha vinto l'Oscar, vero? Sì. Un anno vissuto pericolosamente, sì, con Mel Gibson. Sì, eri... sì. La Nana, che sta sulle spalle del giornalista. Però ci ho messo l'anima perché era talmente bello il film, brava lei. E lei vinse l'Oscar miglior attore. Perché poi esatto. Era un uomo. Una donna, no, lei è una donna, scusa, ma un uomo la doppiava, che eri tu, scusa, mi ha fatto confusione. Esatto, non era un uomo doppiato da una donna, era una donna doppiata da un uomo. Sì, lei vinse l'Oscar, poi fece qualche altro filmino e poi... Ha fatto qualcosa, poi dopo ho perso. Sì, è difficile, sono quei personaggi come il nano del Trono di Spade, che è straordinario, con una voce in originale... pazzesca, non perché chi lo doppia adesso Mauro Gravina non sia all'altezza, sì. Ma lui ha una voce affascinante, vero, vero, ed è bravissimo. Vero. Però tu, voglio però nell'ultimo blocco insieme, non voglio dire adesso quello che cosa hai fatto, perché sono così tante le cose che hai fatto. Che me vedi ancora? No. Senti, quando è stato il tuo sliding doors? Quando è che è scattato qualcosa e dici, ok, questo è il mio lavoro, farò l'attore tutta la vita? Quando Carletto Romano mi ha detto, lei questo mestiere non lo potrà mai fare. Lì hai capito che invece sarebbe stata la tua vita. No, caspita, perché faccio teatro, sono abbastanza bravino, ma perché? Perché? E mi sono messo in testa, dico no, voce non voce, voglio vedere, vado avanti. È bello quello che hai detto, perché normalmente uno può dire, è stato quando Gasman mi ha fatto... No, quando ti hanno detto tu non farai mai questo mestiere. Esatto. Vabbè, Gasman poi è come fosse un padre per me, guarda, una cosa straordinaria, ho stato 10 anni con lui. Che personalità. Ma è enorme. Che bello, è bello perché restano queste cose, sì, si sente dalla voce. Nel cuore. Non lo nascondi, un velo d'emozione si legge, sempre, non la puoi nascondere. Sì. Signori, ancora un blocco insieme con Vittorino Stagni, perché questo è il nome che lo accompagnerà per sempre, come per me sarà Pinuccio, e te sarà Vittorino. A tra poco con Voice Anatomy e Vittorio Stagni. Attenzione, attenzione, fermi tutti, uscite immediatamente dall'acqua, mollate tutto, pinne, braccioli, salvagenti, accendete Radio 24 e ascoltate i Fuori Posto. Com'era Fili, li ho convinti? Sì, per me andava bene, un ma c'è solo un piccolo problema. Non hai spiegato perché le persone dovrebbero ascoltare sto programma. Ma di che parla? Ah sì, è vero, c'hai ragione Filippo. Aspetta, aspetta. Cari bagnanti, tutti voi almeno una volta nella vita vi siete sentiti fuori posto. E noi parleremo di quelli che sono alla ricerca di un posto di lavoro nel cuore di qualcuno, quelli che un posto prima ce l'avevano e ora non ce l'hanno più. E parleremo anche di quelli che invece hanno scelto di stare nel posto sbagliato. E chi lo conduce? Come chi lo conduce? Filippo, io e te. Dal 1 agosto Umberto Alezio e Filippo Roma saranno i Fuori Posto. Dal lunedì al venerdì alle 10 su Radio 24. Oh, aspetta, aspetta! Lasciateci i vostri messaggi a ifuoriposto@radio24.it o allo 0246524182 o via sms al 349-2386666. Voice Anatomy. Bentornati signori Voice Anatomy, domenica 31 luglio, lo ripeto, è l'ultimo appuntamento di questa stagione, ricominceremo a settembre, ad agosto andranno alcune repliche del il meglio di, che poi è stata una bellissima avventura, abbiamo fatto più di 40, quante sono state Alessandro e cari autori? 40, 46 puntate insieme, 46 domeniche insieme, è stata una bellissima avventura, ma poi questo ne parleremo magari all'ultimo blocco di questa nostra ultima puntata di Voice Anatomy, ripeto, per questa stagione, come quando mi chiedono l'ultima foto, ci facciamo l'ultima? No, l'ultima no, speriamo di no, amico mio, facciamone altre con altre persone. Vittorio, grande e bravissimo, un uomo straordinario, di grande sensibilità, di grande affetto. Grazie. E altruista, come bisogna essere in questo mestiere. Sì. Cioè, il successo di una persona non può essere l'insuccesso di un'altra. Perché spesso è così, no? Invece non deve essere così. Uno deve essere felice, ma deve essere felice del successo degli altri. E che più gente brava c'è in giro, e meglio è per tutti, in tutti i campi. Tutti i campi. Però tu, io non lo sapevo, anche questo, ammetto la mia ignoranza nei tuoi confronti. Cioè? Paperino, ah no, Come no? L'hai fatto però, no? Nel senso. Sono stupendo. È complicatissimo, Paperino. Perché era Franco Latini all'inizio. Era straordinario. Il grande Franco Latini. Lo sai che Latini mi regalò il suo sax. Ah, lui suonava anche lui. Porco mondo, bravissimo. Altro musicista. Io devo dire che chi suona ha una grande sensibilità. Non sono io a urlarlo. Anche se fai l'avvocato, io ascolto moltissimo. La sensibilità ce l'hai. Non ho fatto tantissimo. Sono dentro. Guarda, sono il più grande collezionista al mondo di colonne sonore da film. Ne ho circa 14.000. Amo la musica profondamente. Non ho avuto il tempo di impararlo. Quando mia madre mi ha detto, facciamo poi un po' di pianoforte. Mamma, casalinga, io sono figlio d'altri. Come te, insomma, siamo figli d'arte. Sì. E mi disse, ma dai, facciamo pianoforte. C'era mia madre, ad esempio. Io ho detto, ma io voglio giocare a campetto Gami. E lì, però c'è una gran cultura musicale, quello, perché ho sentito le tue trasmissioni. Quella assolutamente. Io l'amo profondamente. Per cui la musica aiuta l'animo sempre, umano. Specialmente quando sei solo. La musica è bellissima. È sì, meravigliosa, sì. Tu non puoi sentirla non... e farla. Sì, se la fai sei anche più grande. Se fai anche un altro mestiere, fai il medico, sei un musicista, sarai un medico migliore. Sì, sì, un avvocato migliore. Hai ragione. E questo è bello. Per cui, come è successo il passaggio di consegne fra Franco Latini e te, di Paperino? Ma non è successo perché lui l'ha voluto, perché improvvisamente lui passò malò così. E allora feci dei provini, feci qualcosa. I provini su Paperino, me lo posso immaginare. Sì, poi le serie, no? Così, dopodiché... No, venne fuori, sai da dove? Da un film che feci Edward il Papero. Sì. E c'è sta voce un po' strana così, e da quello ho fatto... È difficilissimo. È come Marco Medes su Roger Rabbit. Sì, però me lo insegnò Bonucci. Ah, no, non l'ho conosciuto. Bonucci era bravissimo a farlo. E non l'ho mai fatto, chiaramente. No, faceva teatro e basta. E certo, Paperino... sempre però... costava. Devi mettere le lingue così, poi a un certo punto mandi avanti il fiato. No, facciamo un tutorial. Un attimo, la lingua come deve essere... Spiegamelo un attimo, perché mi... La lingua deve essere messa sulla guancia a destra, beffa, spingere, beffa la guancia. E poi cominciare a parlare, ma sempre di testa. Basta. E ma come? Basta. È così. Però bisogna. Esatto, bravo. Difficilissimo. Grosso modo è così. Questo è un grande tutorial. Capito, dottor Meconi e dottoressa Navarro, Alessandro, com'è? Volete venire di qua a provare? Io ogni volta che sento la prima, perché abbiamo un figlio piccolissimo, per cui insomma la casa di Topolino si vede, e ogni volta che sento Paperino dico: ma santa miseria, ma che fece Topolino? Ehi, Pluto! Vero che tu c'hai una voce particolare, una voce di testa. Facile. Topolino è quasi, sì, perché poi ormai doppiano i grandi, che Pedicini, sì, che fa Pippo, sì, insomma, sì. Marco Mede. Cioè, però i cartoni di allora erano straordinari. I cartoni erano i cartoni animati. Adesso sono tridimensionali, dentro casa, belli quelli della Pixar, per carità di Dio, bellissimi. Però tu vedi Biancaneve e Sette Nani, che c'ha 70 anni. Come no, ancora c'è l'emozione di quelle musiche. Porco mondo. Di quelle interpretazioni, dai. Io mi ricordo Sergio Tedesco, Sergio Tedesco, faceva il serpente nel libro della giungla, che era straordinario. Sì, bellissimo. E faceva, aggiungeva lui queste cose. Che faceva, bello. C'era fantasia nel doppiare. E c'era Corrado Gaipa che faceva Baghera. Mamma mia. Ne abbiamo... Ma tu ti ricordi un po' tutto, però. Ma sì, perché è la mia vita, cioè, ho cominciato amandolo fortemente e continuando ad amare questo mestiere in tutte le sue declinazioni. E meno male che ci sei tu, che almeno con questa trasmissione tiri un po' su, tiriamo un po' sul morale all'ambiente, che l'ambiente sembra di persone si rinchiudono delle sale, sì, danno scotto a tutti, sì, e cambiano, e non vogliono far imparare le lingue alla gente. Vero, non è così, no. Vogliamo soltanto veicolare un mestiere straordinario che si fa in tutto il mondo, a parte nei paesi ovviamente anglosassoni, ma si doppia in tutto il mondo, addirittura in Cina ormai si doppia con 8 lingue diverse, con 8 dialetti, chiamiamoli così, certo, diversi. Però c'è meno velocità, per esempio. Qui c'è una cosa assurda, velocissima. E sì, il fatto che siamo bravi. In Francia no, in Francia non esiste questo. In Francia un film ti dura 10 giorni, 4 giorni l'hai fatto. Sì, 3-4 giorni dobbiamo sbrigarci. Che poi, sì, uno si sbriga. Anche se uno considera che il film dura un'ora e mezza, il tuo personaggio, anche se il protagonista lo unisci, tutto quello che dice dura anche mezz'ora, questo, e ci mettiamo magari però 18 ore. Stai dicendo una cosa giusta. La seconda colonna vuol dire che tu fai tutta la tua parte per conto per tuo. Conto tuo, ma certo, quando tu fai una scena d'amore con una donna, te poi come fai tu a farsi? Fai da solo, io no. Tu non l'accetti sta cosa, non la vuoi neanche al doppiaggio. No, neanche volevo. Noi ci dobbiamo baciare le mani da soli quando voi vedete le scene d'amore, sì. Sono scene d'amore dove noi certo. Ci baciamo le mani col muro. Invece Vittorio è l'unico che chiede la presenza della non può fare da solo. Dice ti amo a una che poi ti risponde dopo, no, fra due giorni ti dico ti amo anch'io. Moditi adesso. Che cos'è quel numero che mi sta facendo? 6. Ah, la domanda numero 6. Mauro Meconi, che giustamente scrivono, fanno un copione. Poi io ogni tanto sdirazzo dal copione. E la dottoressa Navarro e il dottor Meconi, visto che io mi devo ricordare, visto che Mauro Meconi è un bravissimo regista e autore, è uno dei protagonisti del romanzo criminale, per cui è abbastanza coatto. Faceva fiero l'occhio, per cui quando mi fa un numero o devo fa, se no s'arrabbia. Per cui ecco, che consigli ti senti di dare a un giovane che vuole intraprendere questa carriera? Mi sembra giusto, visto che tu hai l'esperienza giusta per di continuare se ti dicono non lo potrai mai fare. Sì, quello è sicuro, la prima cosa è quella, insistere. Sì. E poi soprattutto leggere molto ad alta voce e poi fare qualche corso, ma con dei bravi. Che faccio dei corsi di doppiaggio, sì, cerca... ma esatto. Il teatro è un'altra cosa, cioè il teatro... Però la base del teatro ci deve stare. Il base del teatro ci deve stare. L'addizione, l'impostazione, ci deve stare. Capito? Poi dopo puoi sporcare come ti pare, ma insomma... Devi avere la padronanza del linguaggio. Io mi ricorderò sempre Ferruccio Amendola che faceva un doppiaggio di un film e il regista, che era poi il regista dello stesso film, disse, lo sa che lei... c'è un po' di romano in lei, no? Un po' di romanesco. E lui ha detto, ma io sto doppiando a Roma. Come qui doppio romano? Quindi poi dopo puoi sporcare. Walter Monnezza, cioè Thomas Millian sembra che parlava in romano. Come no? Ma l'atteggiamento, bravissimo Thomas Millian, cubano, a fare l'atteggiamento, un attore straordinario Thomas Millian, no? Ma la voce di Ferruccio sopra quello lì era... Però è stato gratificato da Thomas Millian, perché... Beh, me lo auguro, sempre. Ha detto che... sempre, il mio grande successo è anche Ferrucciamento. Certo. Qual è l'attore a cui hai prestato la voce e sei più orgoglioso, sei stato più contento? Quella nana lì. E poi... Di un anno vissuto pericolosamente. Sì, guardatelo, lì. È un film bellissimo. Quella lì, sì. Era Roland Joff, era la e poi Peter un altro Day. Michel Blanc nel un film con Yves Montand, non mi ricordo, sono due serie. E ne hai fatti Jean quattro... de Florette. Invece delle serie televisive dove sei stato, ne hai fatte tantissime. Anche ma i cartoni, cosa, Roger Rabbit ti faccio tu, la Iena. La Iena, quello cattivo, sì. Cattivissimo. Ho fatte tante, non me le ricordo. Poi voglio andare avanti, non me voglio manco ricordare troppo. Lascia sta, guarda. Perché hai fatto pure Futurama, South Park, sì, insomma, sì, tantissime sì. Hai fatto. Sì. Allora, sono rimasti 2 minuti insieme e... Intanto ritornerai, perché ne dovrai fare tante le cose e avremo modo anche di scaricare tantissimi se altri sono contributi. Vivo, sì. Ma dai Vittorio, vabbè, ti ricorderò, che devo fare? Bravo, ti ricordo. Questo è già qualcosa. Fai come mi ha detto un giorno Ciufoli, il papà, la mamma di Ciufoli, ha detto il primo che muore io mi ritiro in campagna. Praticamente gli ha detto, doveva morire lei per primo. Se n'è andato a 102 anni il papà di Ciufoli, sì, pensa, sì. Se tanto me da tanto pure Roberto Ciufoli mi dura così è macello. Simpatico però. Morto, capirai, un amico di una vita, visto, pure ospite. No, scherzi, da poco abbiamo fatto pure un'altra cosa insieme. Caro Vittorio, niente, cosa dire di più? Che stai facendo? Quali sono il tuo impegno futuro? Suoni ancora intanto? Sì. Futuro, no, sono meno. Suoni meno? Suono meno, sono impigrito. No, però ogni è. Tanto a casa se sono solo mi metto lì a suonare un po' la tastiera, la chitarra. Che tu sei solo, non ci credo, ma comunque. Sì, ultimamente ho detto mi hanno fregato in troppe. Mi hanno fregato in troppe, attenzione al femminile, non in troppe nel lavoro, in e troppe. Allora, e allora direi basta. Beh, io conosco Ilaria Stagni come figlia. Ilaria è il mio amore. È la tua quella vita. È l'amore. Quello è l'amore. Il resto? Vabbè. Non si sa, non tutto si interrogativo, sa. Non si sa nessuno mai. Ha fatto poi una richiesta che mi sveglio improvvisamente e si è girato papà. Chi lo sa, non puoi mai dire che succede. Roba in Africa adesso, tu gli ultimi anni sei stato tanto in Africa. Perché faccio volontariato, perché uscivamo sempre. Sì. In Africa dove vai, Vittorio? A Malindi, ho tutta una da ragazzini, porto abiti, scarpe. Che bello. E do soldi per mangiare. E sono 15 anni che faccio questo. 15 anni e questo ti fa molto onore. Volontariato. Sì. E questo anche perché questo non l'hai mai raccontato. No. L'hai detto oggi, ma è giusto che tu lo dica. L'hai detto a qualche centinaio di migliaia di persone che adesso ti apprezzeranno. Ti saluto tutti. Assolutamente. Grazie a tutti. E io ringrazio te. Vittorio Stagni, grazie, ma ti riascolterò attraverso questi microfoni, magari quando intervisterò tue figlie e tu interverrai telefonicamente. E io ringrazio te per quelle bellissime trasmissioni che fai. No, grazie a te, grazie alle persone che ci vogliono bene, ma noi continuiamo, non finisce qua, voi sanatovi. Grazie a Vittorio Stagni. Grazie a te. E con voi, carissimi radioascoltatori, a tra pochissimo. Mi fa male tutto. Aspetta, io ti conosco. Assomiglio a un sacco di gente. No, Bing Bong, l'amico immaginario di Riley. Chi l'ha detto che solo i bambini hanno amici immaginari? I miei sono i personaggi con i quali sono cresciuto, attraverso la televisione, il cinema, i fumetti. Se volete ve li presento. Sono Giovanni Savarese. Vi aspetto dal 6 agosto con l'Amico Immaginario, ogni sabato alle 23 e la domenica alle 14. Naturalmente qui su Radio 24. Verona-Torino, trasferta d'affari. Io, un collega e il sistema Digital Radio. Ti va di ascoltare la radio? Certo, ma te la faccio provare in digital. Ne ho sentito parlare. Il suono perfetto che non ti lascia mai nemmeno in autostrada. E in più hai tanti contenuti speciali. Basta un autoradio digitale. DAB Plus. Chiedila al tuo concessionario. Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Voice Anatomy. Bentornati, signori miei, come mi piace salutarvi. Abbiamo appena salutato Vittorio Stagni, lunghissima carriera. E vi ricordo che oggi è il 31 luglio, lo sapete perfettamente, ma ricordo anche ai miei autori che è l'ultima puntata di questa fortunata stagione, che è proprio culminata con questo premio bellissimo. Ci vantiamo un po' di questo premio, ma che grazie a voi, al vostro affetto, il vostro apprezzamento, abbiamo ricevuto questo premio come miglior trasmissione radiofonica dell'anno, il premio Ennio Flaiano, che è un premio molto importante, per cui io già li ho avuti a questi microfoni, ma è giusto che alla 46esima e ultima puntata di questa 46esima non si riprende con... già ci penso loro con i messaggi a riprendermi, se fate pure voi, già lo fate e con la cuffia la gente non vi ascolta, ma devi migliorare la dizione, Pino, prossimo anno, prossima stagione, prendiamo un po' di lezioni, hai capito? Beh, come se li girano i figli all'improvviso. All'improvviso gli autori che tu hai chiesto, che tu vuoi fortemente, e poi ti si rivolgono contro così. Ma niente, e soprattutto l'inglese, ecco, una cosa che... lì si è messo male, Pino. Lì sei indipendente. Sentilo, senti Mauro Meconi che esce tutto il suo romanzo criminale. Adesso dobbiamo fare un attimo e tempo di bilancio, no? Siamo a fine stagione, quindi ecco. Pino dovrà migliorare senza dubbio la dizione sia italiana, ma soprattutto inglese. L'inglese sì. Possiamo dire anche la verità sul premio, che molto probabilmente ce l'hanno dato per avere come ospite Alessia, insomma è sempre una bella figliola, no? Assolutamente sì, beh, qualcuno la vede, beh, lei è un'attrice pure, lei siete due attori, insomma, non dimentichiamo. Ci proviamo. Anche tu hai fatto tantissimi film e poi anche indimenticabili, io ho fatto quelli dimenticabili, ma tu hai fatto 36. Beh, ma tra i tuoi dimenticabili però ce n'è uno che io avrei voluto fare, il mio piede sinistro. No, vabbè, ma per me degli anni 80 è un quello Jim Sheridan, fermate, quello è Jim Sheridan che hanno vinto l'Oscar, mio piede sinistro. Io ho fatto mezzo destro. Scusa, cioè, ovviamente. Magari avessi fatto. Pino, non hai fatto il mio piede sinistro. No, manco quello di Stimbiglio. Che l'ha fatto un attore straordinario e ha vinto pure l'Oscar. Mezzo destro, mezzo sinistro, io con Gigi Andrea. Esatto. È quello, dicevo. Con tutto il rispetto per i cari amici Gigi Andrea, Leo Gullotta, Gianni Ciardo, c'erano tutti i caratteristici. Film meraviglioso. Sì, pensa che l'ho detto anche già un'altra volta, sono stato doppiato in quel film. Io... E questa è la cosa che effettivamente fa un po' 35 ridere. Anni fa, perché era in Veneto, l'ho fatto con la scucchia, dico magari un giorno sarò famoso, non mi riconoscerà nessuno. Caratterizzato, capito? No, invece sono uguale, senza il pizzetto, con i capelli neri, ma sono uguale, stessa faccia da Mela Cotogna. E parlavo veneto, perché si chiama Carlo Vacca, per gli amici Vacca Carlo, devo dire, questa è un'idea geniale di Andrea, mi mise questo nome. E io parlavo così, sto a divertirci. E poi sono andato al cinema e mi sono ritrovato doppiato. Anch'io ho fatto un film con Gigi, con Andrea, Gigi Andrea. Che hai fatto tu con Andrea? Abbiamo fatto Almeno tu nell'universo. Io faccio sempre questi film un po'. Tu hai cominciato con questi film Tre metri sopra il cielo. Tre metri sopra il cielo. Almeno tu nell'universo è la copia riuscita così e così, però. Che poi tu, paraculo come sei, hai fatto Pollo che era un coglioncino. E che memoria così. Ma questa non è colpa mia, questa è colpa del cinema. A me prima di Tre metri sopra il cielo non mi calcolavano proprio. Dopo Tre metri sopra il cielo ero diventato soltanto un attore che poteva fare soltanto ruoli molto simpatici, carini. Che doveva morire all'improvviso. Dopo Romanzo criminale, niente, solo il cattivo. Secondo i cattivi so pochi, il lavoro più. Per cui questa è una richiesta che facciamo. Utilizziamo la radio per forma privata. Mauro Meconi. Non mi fate incazzare. Esatto. Chiamatelo perché insomma lui può fare sia il tenero che muore. E sia l'assassino di Romanzo criminale. Oppure se vi servono due caffè, insomma. Ah, al regista, questo è l'aiuto. Scherziamo. Alessia Navarro invece è presa dal suo teatro, perché lei è teatro. Lei ci guarda un po' dall'alto il basso. No, non le sono cose una serie, snob, le fa le cose serie. Non sono una snob, tant'è che quest'anno, insomma, tra i vari spettacoli teatrali ci saranno delle commedie divertenti, comiche anche, no? Sì, brillanti. Però poi farai Al Quirino, Frida Kahlo e tutto. Allora, quello è il sogno di una vita. Uno spettacolo su Frida Kahlo a cui pensavo già da tantissimi anni e si è realizzato 2 anni fa, è proseguito lo scorso anno e proseguirà ancora la prossima stagione al Teatro Quirino. Lei fa teatri importanti, però farete anche uno spettacolo insieme voi due, ma questo sì, ma in un teatro piccolo, però di questi che non contano niente. Esatto, lei lo fa tra l'altro, neanche ci hanno dato le date, quindi non si sa se lo facciamo. Però a settembre, quando ricominceremo poi Sanatomi, sicuramente qualcosa di più casomai la saprà. Facciamo qua, Pino, se ci ospiti facciamo, se non siamo abbiamo il teatro, facciamo, ecco, quella è una cosa che mi piacerebbe fare, vedi, ecco, cari autori, dovremmo farlo, sì. I radiodrammi, che poi drammi, insomma, sono anche cose leggere di una volta che la Rai trasmetteva con grande frequenza, quella è una cosa bellissima. Eh sì, non sarebbe male dedicare uno spazio ai radiodrammi. Lo so, però serve chiamare gli tutti gli attori insieme, registrare, non è una cosa, parliamo a voce alta, attraverso questi microfoni. Però ci possiamo ragionare, visto che per il prossimo anno noi insomma speriamo anche di raddoppiare gli appuntamenti, non so se si può dire. Qualcosa succederà, o diversifichiamo, si raddoppia. Do il benvenuto anche e un saluto a Gaia. Ciao Gaia. Che oggi è arrivata un po' più in ritardo, è l'ultima puntata. Buongiorno Gaia, ben svegliata. Anche lei è bellissima. No, sì, abbiamo... Qui soltanto belle ragazze, sennò Pino non le prende. Esatto. Ma questo ormai lo sanno tutti, sì, insomma. Sì, scorciatoie. Beh, si sa, insomma, le scorciatoie televisive e quelle radiofoniche. Bimba, farò di te una stella. Mettiamo in difficoltà questo nostro amico. Dai, che cosa gli Pino chiediamo? Insegno. Cosa gli innanzitutto umiliamolo un po' mandando un pezzo di un film meraviglioso. Ecco, perché io ho rovinato. Lui ha prestato lavoro. No, purtroppo no, ha fatto un grande lavoro e Il Signore degli Anelli è uno dei film, diciamo, di quel genere, più belli della storia. Specie il 2, secondo me è il mio preferito. Posso dire una cosa? Tu non l'hai non visto. L'ho visto. Dai, vabbè, pazzesco. Calcola che Il Signore degli Anelli 1, 2 e 3 messi insieme hanno vinto tipo roba come 200 Oscar. Lo so che cosa mi scatta quando ci sono questi colossal. E poi ha interpretato un personaggio che le donne è uno dei doppiaggi più facili, fra virgolette, perché è un eroe, perché non ha caratteri. Cioè, beh, facili non lo so, è il protagonista, no, ma sai, sì, tormentato. Però è più difficile doppiare un film come Ray Charles o come... questi film, L'esercito delle 12 scimmie, Brad Pitt, o anche lo stesso Sacha Baron Cohen di Borat, è più difficile. Ah, pure quello fantastico, dopo lo cerchiamo magari. No, ma quando faremo una puntata postuma, quando io non ci sarò più. L'anno prossimo che cambiamo conduttore. Stiamo preparando il coccodrillo. Ma come che mette il conduttore il coccodrillo? Avete parlato col medico, state buoni, ma che siete pazzi. L'avete scaricato questo monologo che poi è un po' più... perché in internet o in DVD o in Blu-ray va un po' più veloce il film, per cui la voce si alleggerisce di un'ottava. E lui ci tiene tanto alla sua voce. Comunque Pino, è per tutti così, Tutti i doppiatori che sono venuti qui avevano la voce leggermente più leggera, non troviamo attenuanti. Comunque il ruolo è Aragorn. Certo, figlio di Arathorn. Figlio di Arathorn. Io invece sono Finuccio Fiodamandino, che è diverso, insomma, no? Vai col Signore degli Anelli. Vai. Restate fermi. Figli di Gondor, di Rohan, fratelli miei, vedo nei vostri occhi la stessa paura che potrebbe afferrare il mio cuore. Ci sarà un giorno in cui il coraggio degli uomini cederà, in cui abbandoneremo gli amici e spezzeremo ogni legame di fratellanza, ma non è questo il giorno! Ci sarà l'ora dei lupi e degli scudi frantumati quando l'era degli uomini arriverà al crollo! Ma non è questo il giorno! Quest'oggi combattiamo! Per tutto ciò che ritenete caro su questa bella terra, vi invito a resistere! Uomini dell'Ovest! Sei brividi. Metterlo. Bravo. No, metterlo. No, da applausi. No, i brividi, Pino, te lo puoi testimoniare. Guarda. Ecco. E applausi pure. Chi era il direttore di doppiaggio? Francesco Vairano. Vairano. Grande Francesco. Sì, ma era bello il film. Cioè, non era. Come si dice sempre, l'hanno già fatto loro. Te la facciamo a te questa domanda. Sì. Cosa hai provato quando ti hanno affidato il ruolo? Già sapevi che si trattava di un colossal del genere? No, sapevo che era un grandissimo film tratto da una grandissima opera che già tentarono di fare a cartoni animati, ma non riuscì Il Signore degli Anelli, per cui aveva delle vicissitudini strane. Si sperava nel grande film, facemmo dei provini molto lunghi. Quando io ho vinto il provino su Aragorn, ovviamente non avendo letto Il Signore degli Anelli, che sono 8000 pagine, non sapevo chi fosse. Poi mi hanno spiegato che l'ultimo della trilogia si intitolava Il Ritorno del Re e il re era Aragorn. Ho detto, cavolo, so io. Lo faccio. No, l'avrei fatto comunque. L'egocentrismo dell'attore. Ma no, che no, esce ma fuori. Io sono un bambino quando doppio è perché faccio delle cose che so che come attore non potrò mai affrontare. Vabbè, certo, allora... quello era un attimo più carino di Devino. Sì, ma proprio morte. poco. Perché ormai è risaputo, rinomato, che a Monteverde tutte le mattine lui quando si sveglia si affaccia dalla finestra del bagno ma e chiede questi discorsi. Ma non è questo il giorno. Io lo farei nello spogliatoio della mia squadra, sto monologo. Ci ho già pensato al Pacino, Pino, lascia stare. Beh, dai. Quello al Pacino e Giancarlo Giannini ogni maledetta domenica. Lascio stare. La questione di centimetri. Lo avremo presto, spero, Giancarlo. Sempre molto impegnato, ma molto attento. Una meraviglia... di doppiatore, una meraviglia di attore mondiale. E questo sì, lo farei che scrive? Ah, Borat. Dai, sì. Ce l'hai? Ma ce l'hai? Pino, una delle tue migliori interpretazioni. Ma dai, ti bello, giuro. Bello, dai. Sentiamola allora. Manda meco. Як ще маєш? Ім'я нами Борат. Questo è mio paese di Kazakistan. E bello, bello. Mio hobby. Bom, ping, ping, pom. Disca dance. Bagno col sole con guardaroba verde. Questa è casa di me. Entrate, prego. Io vivo qui dentro. Nel letto. Questo è registra voce con video. E questo è suona cassatina. Ora io mostro a voi fuori di mia casa. Dice? E San Natalia. E sa sorella di me, numero 4 di prostitroia di tutto Kazakistan. Bella ciccia, no? Bella, bella, va bene, questa era. Anche lì non sapevo che sarebbe successo poi quello che è successo, perché era il primo film dopo Ali G, che non fu molto fortunato, primo film importante di Sacha Baron Cohen. Ne parlammo poi... anche con l'amministratore delegato di 20th Century Fox, è vero, che è venuto ospite. Sì, sì, lui ha fatto un lancio straordinario di quel film, poi funzionò tanto, perché poi era tutto vero, cioè la gente non sapeva che era ripresa, successo il film. Diciamo una cosa a vantaggio del doppiaggio, e quindi tua, che Borat nel mondo non è andato bene, in Italia ha fatto il botto. Sì, è andato bene in America, è andato bene nelle altre parti, in Europa, esatto. L'Italia è stata quella che l'ha sorretto maggiormente. No, ma poi è difficile, è complicatissimo, perché a un certo punto lui parlava anche kazako, come negli altri film il dittatore parlava arabo, in Bruno era tedesco. Bruno è fantastico. Bruno, gay, attore tedesco, non vi dico a chi mi sono ispirato, ma comunque era difficilissimo, difficilissimo. E, no, ma lui è un attore che io seguo da tantissimi anni, l'ultima è stata Alice attraverso lo specchio, dove fa il tempo, dove ha interpretato un ruolo molto misurato, come in Hugo Cabré di Scorsese. Ma l'hai sempre doppiato tu, sì, lui? Sì, sì, sì, l'ho sempre fatto. Ti dispiace? No, curiosità. Sì, lui è Will Ferrell, mi riporto dietro da tanti. Will Ferrell da 18 anni, che ho avuto anche la fortuna di incontrare, come Viggo Mortensen stesso, persone strepitose, semplici. Mi sono presentato nel camerino di Will Ferrell, lui non sapeva che sarei arrivato, perché mi ha invitato la truccatrice, una mia amica italiana. Dice: guarda, stiamo girando qui Zoolander 2, cerca di infilarti. Cioè, io mi sono infilato, gli ho messo davanti il cellulare con la registrazione del trailer del film che stavo doppiando suo. E allora lui mi ha... È rimasto contento? Ma è alto 1,90, meno male che era quello rimasto... Quello è contento di suo, diciamo. È una cosa brutta quanto è alto. Non mi aspettavo una cosa così gigantesca. E Viggo Mortensen invece è una persona strepitosa. Un uomo che sa 7 lingue, scultore, poeta, pittore, poeta. Scrittore. Bello, ricco, famoso, bravo. Esatto. Che doppiato da Pino Insegno, questa è l'unica pecca, se provo ad andare a cercare. Esatto, no, però... no, lo faccio bene lui. Lui deve essere contento di me, perché lui ogni tanto c'ha la vocetta, si perde. Gli americani ce l'hanno la vocetta. Ma lui ogni tanto non muove neanche le labbra, non si capisce. Beh, bravissimo, nella Promessa dell'assassino, dove fa questo russo. Lì ho rischiato, perché venivo da Borat, per cui fare... Devi stare attento da un uomo come me. In quella maniera rischiavo, bello, in un attimo diventava un altro, va bene. È finito questo blocco, mi avete massacrato, ma staremo un altro blocco insieme. Abbiamo appena iniziato, Pino. Boys Anatomy, continua. È appena cominciata, dico io. Dai, dillo. Boys Anatomy. Boys Anatomy è appena cominciata. È pronto pure per fare cose drammatiche. Da buona, a tra poco, Boys Anatomy. Voice Anatomy. Ed eccoci di ritorno, domenica 31 luglio, Voice Anatomy. Vicino a me sempre Mauro Meconi e Alessia Navarro per fare questa ultima passeggiata per questa stagione, lo ripeto, di Voice Anatomy. Ma mentre stavamo parlando di me, abbiamo chiamato un nostro grandissimo amico che con la voce ci campa ed è... Tu sei un fan sfegatato suo, non diciamo ancora chi è, vero Mauro? Beh, se pensiamo che lui da quando ha iniziato la carriera non ha fatto altro che presentarsi a, diciamo, contest di freestyle e li ha vinti tutti, quindi insomma è uno che la voce la sa usare parecchio bene. Il poi... freestyle è proprio, sono come i vecchi quando si facevano le gare fra poeti eccetera di una volta, adesso sono i rapper che si sfidano a suon di freestyle, inventando rime, inventando frasi. È una cosa facile. Un dono, proprio un talento naturale. E allora lui si chiama Clemente Maccaro, meglio conosciuto con lo pseudonimo di Clementino o quello del suo alter ego, Iena White. Caro Clementino, ci sei? Pronti? Eccoci qua, ciao, come state? Ciao Clementino. Benvenuto. Eccoci qua, bene, bene. Poi, napoletano vero, no? Sì, di Cimitilla, provincia di Napoli. Cimitilla. Guarda, l'accento Cimitilla. Non si direbbe, no, no, bravo. No. Bravo. Nord-est. Ex cimitero di Nola, quindi coemeterium Cimitile. Hai sentito, ha dato sta botta di latino e non è... Sì. E non è l'unica cosa che so di latino. E basta. Mi sembrava lodito, mi sembrava. Esatto. Non si fanno riferimenti a situazioni drammatiche, vi prego. Clementino, so che sei atterrato da poco e ti abbiamo incastrato, ma sei un amico, poi un giorno verrai qui in diretta, insomma, a Roma. Certo, certo, ma poi io sono un tuo super fan. Sì, so che mi vuoi bene. Ci siamo incontrati con Clementino a Ischia, al Global Film Festival, dove noi, io, Bisio e Compagnia Bella stavamo presentando l'anteprima mondiale del Raglaciale 5, questa bellissima saga cartoni animati. Ricordiamo, dove tu con Tigro hai vinto il nastro d'argento. Il nastro d'argento. Vabbè, d'argento. Ma non stiamo parlando di me adesso. Oggi parliamo anche di te, Pino. Sì. Stacci, fattene una ragione. Io molestavo Pino. Molestava Pino, ha fatto proprio da stalker. Ecco, questo va detto. Cioè, anche uno pensa che, se ascolta uno i testi rap, pensa che sono tutte delle persone dure. E Clementina è una persona squisita, no, generosa, ma, semplice. Anche gli altri. Ti devo dire che dietro non si nasconde il nero che ha sofferto nei ghetti. C'è un ragazzo che sì, è cresciuto all'ombra di una situazione magari difficile. Adesso non so la tua vita, Clementino, com'è stata, per poi buttarti nella rabbia del rap, nella dolcezza anche del rap. Sì, no, vabbè, il rap è stato più uno sfogo. E poi è perché era l'unica cosa che sapevo fare, insomma. Mi piaceva improvvisare le rime quando ero a scuola, e poi ho scoperto che praticamente, cioè, poi è diventato un lavoro. Non è una cosa facile. L'unico disagio, diciamo, è il posto dove abito, perché Cimitile è praticamente il centro della terra dei fuochi, the land of fire. Infatti scappo sempre, adesso sono tra Milano e Napoli. Vai a prendere una boccata d'aria, diciamo. Sì, prendo una boccata d'aria. Anche il tuo amico Rocco Hunt canta e narra le situazioni disperate di quella zona, o sbaglio? Sì, tu ci hai lavorato, sì, anche con Rocco. Rocco di Salerno, Rocco. Sì, Rocco. Effettivamente anche lui parla di queste cose, lavoriamo molto insieme. Beh, non è una cosa, bisogna parlare, almeno urlarlo attraverso la musica fa sicuramente... gran casino, nel senso, è assordante, perché è una situazione terrificante. Solo chi ci vive veramente si rende conto che cosa significa la Terra dei Fuochi, che sembra il titolo di uno sceneggiato di successo, la Terra dei Fuochi, mentre è una realtà terrificante. Sì, è abbastanza terrificante, insomma. Poi noi cerchiamo di dare il meglio come cantanti, e cerchiamo di organizzare delle cose. Bisognerebbe organizzare più spettacoli a teatro, bisognerebbe fare più concerti in piazza, piazza del plebiscito, magari venga a presentare come ospite straniero gratis, ovviamente. Clementino, poi tu hai lavorato in teatro, sbaglio? Io ho lavorato in teatro, un parolone, ho fatto un quartullo. Mia mamma e mio padre sono attori amatoriali, però da 40 anni, quindi sono professionisti nell'amatoriale. hanno sempre fatto commedie di Edoardo De Filippo, di Scarpetta, proprio da Natale in Casa Cupiello a Napoli Milionaria. E io, quando ero piccolo, insomma, vagavo nelle quinte dei teatri, fino a quando ho capito che o facevo l'animatore turistico o facevo il rap. Cioè, una roba del genere dovevo fare. Ma sei molto comunicativo, perché io l'ho conosciuto, mi ha messo all'angolo, ha detto: adesso ti recito una cosa, te la recito un minuto, dammi un minuto. E ho detto: ma Clementino, ci mancherebbe altro, dammi pure il numero. Sì, ma non mi chiamai, io ho detto, non mi chiamai, Clementino, te prego. Ovviamente era un gioco, sì, che... poi alla fine hai chiamato tu. Esatto, no, ma era un gioco goliardico quella sera, che è diventato il tormentone della serata. In questo momento storico si vede un grande fermento per quanto riguarda il sud d'Italia, sia per quanto riguarda le fiction, la musica. C'è sempre stato, c'è però, sempre stato, perché però il sud dell'Italia è magnifico, è un pochino balzato, veramente, cioè, guarda, veramente spacco. Ma senti che voce c'ha i doppiatori dei film americani. Esatto, sempre. È bella come cosa, no? È una battuta. Io ti ringrazio, per te finisce qua. Voi sanato, ho capito. Clementino, improvvisaci qualcosa sulla questo nostra dopo trasmissione. Ah, vuoi farglielo fare? Un assaggio. Un voi sanatomi, Navarro, Meconi, Insegno, Radio 24. Ah, ah. microphone check, il sound originale, ascolto Pino Insegno che doppia l'era glaciale, per quello che ti poca ancora, fiero in ginocchio, guardo il romanzo criminale, tifo fiero l'occhio, watch un gringo, po' microphone, beat, class e clementi, motespacchi e vetrina, torno da Napoli e lo faccio così, mi dispiace soltanto che la Juve ha preso Higuaín. È ufficiale pure questo. È un fenomeno. Purtroppo è ufficiale, purtroppo. Mamma mia. Ah, è ufficiale? Sì, ma 94 milioni di euro, insomma. Vanno via i soldi, bisogna dire. 94 so milioni di euro, gli davo tutto. Ah, questo era 94 milioni di euro. Hai capito? Per così poco, Clementi. Sì, noi le guadagniamo in un live. Sì, questi vanno via, so, perché le sigarette, una pizza, una cena cami, i soldi vanno via, Clementi. Madonna mia. È così. 94 milioni, cioè praticamente per arrivare a Higuaín dovremmo prendere Lewandowski per fare gli stessi gol. Esatto, ma vedrai che De Laurentiis credo che sia pronto per fare grande colpo. Ma vogliamo far capire a Gonzalo che cosa si è perso lasciando Napoli, mandando un tuo pezzo fantastico che ha vinto praticamente tutto, che si chiama Ovient. No, sta diventando con tutto questo, Ovient. Sta studiando per prendere il mio posto, ma ti rendi conto? No, Pino, è impossibile prendere il posto tuo. Allora sentiamoci, tu resti in linea, non te ne andare ancora perché abbiamo un altro blocco insieme, mancano 4 minuti e 32 secondi a finire questo e poi altri 10 minuti insieme, Clementino, mi raccomando. Sentiamoci Ovient. Ma senti, son capoce che intenda niente, mentre parte nei bastimenti ci rimane soltanto vento, o vento, ma sento, son capoce che intena niente, mentre parte nei bastimenti, ci rimane soltanto vento, o vento. Ti giuro mamma, questo è l'ultimo caffè che bevo. Il poco riposo mi rende nervoso e mi chiedo se rimarrà solo la polvere nelle mie mani. Il risultato sarà correre su delle navi. I figli di puttana fanno saltare i miei piani. Loro ci vogliono trattare da poveri schiavi. E chi sogna l'America più lontana? Come un secolo fa il sangue dei nostri avi. Dimenticati dal padre eterno, brucia qua l'inferno. E chi non sta mai fermo è perché stanco dentro. E camminando a testa alta, ascoltando la voce del vento, avrà fatto centro. Ma senti, son capoce che intena niente, mentre parte nei bastimenti, ci rimane soltanto vento, o vento. Ma senti, son capoce che intena niente, mentre parte nei bastimenti, ci rimane soltanto vento, o vento. Parlo a nome di una generazione che qui non ha più niente ed è costretta a dipendere sempre dalla gente. Andare via fino a Suma con la mente di giù, rimane solo il vento a noi artisti, sempre di più. Con la valigia in mano vaghiamo, una nazione che non dà opportunità o valore a quello che inventiamo. Non ce la faccio più, 30 anni in mezzo a sta merda, ma mi rimbocco le maniche fra e ricominciamo. Se credi che da grande ragioni così, allora ragazzino tu non hai capito un cazzo, ti aspettavo. E per la prossima fine del mondo, come dici, un vecchio saggio, io speriamo che me la cavo. Guarda la gente quando sento vieta, coppa pelle la torre, le cosa fa l'anima e che la cattiva chiama varietà, sensibilità per l'aria interna carica. Vorrei capire adesso il tempo che ho a disposizione per confessare i miei peccati a quanti no signore. Che la cattiva chiama varietà, sensibilità per l'aria vienta per l'anima. Ma sento, ma sento. Ma che bella è sta canzone, Clementino? Che poi Gomorra ha copiato, che fanno me sient. Ah, me sient. No, a parte scherzi. Com'è nato? Ti piace? Bellissima, ma non solo questa. Com'è nata questa bellissima canzone? Dove eri? A Amsterdam l'ho scritta. Cioè, posso immaginare, vabbè, non andiamo sì, oltre. Mi piacevano i quadri di Van Gogh. Certo. Esatto. No, ma non eri andato per la casa di Anna Frank? Anche per la casa di Anna Frank, però i tulipani... Cioè... Sì, sì. I fiori, fiori, diciamo i fiori, dai. I fiori, le piante. Le piante. È vero che nascono poi le canzoni più belle, nascono magari in due secondi e le butti giù in un attimo. E poi ci sono le canzoni che scrivo in tre mesi e poi fanno schifo. È vero, guarda, ma può succedere, adesso non lo so, non mi riferisco ovviamente alle due canzoni, ma tanti dei grandi che abbiamo sentito, le canzoni più importanti, sono nate per caso quasi, in un attimo, nel dormiveglia. Se sono svegliati, sono alzati, hanno scritto. Il flusso proprio. Sì, il flusso poi più scrivi e più ti viene in mente, più, più alleni il cervello. Senti, amico mio, tu sei il miglior freestyle italiano, ne hai vinte tante, dal 2004 al 2006 le competizioni freestyle le portate sempre a casa tu. Una volta sì, 10 anni fa insomma, adesso vabbè, ci sono i ragazzini nuovi che spaccano tutto, eh. È difficile stargli dietro. Sì, sono veloci? Tipo io... Sì, perché comunque hanno come dire, anche avuto dei rapper delle gare di freestyle da seguire, e quindi ora sai, i ragazzini di 16-17 anni a scuola si mettono lì sulle panchine, nei cortili, e iniziano a fare freestyle. Io a 34 anni lo faccio, però così per divertimento, non faccio più le gare. No, vabbè, certo. Mi sbranano. No, va bene così, però sei stato anche tu uno dei precursori di questo stile. Va bene, Clementino, resta ancora con noi un altro blocchetto, va bene? Non te ne andare a casa, non sali su un taxi, fermati un attimo. Sto qua. Due secondi e torniamo in diretta insieme a te con Clementino, con Voice Anatomy, i nostri carissimi autori Alessia Navarro e quel disgraziato di Mauro Meconi. A tra poco. Dalla Brexit all'immigrazione, dall'Europa alla Cina, dall'Iraq a Molenbeek, tutti i temi più caldi dell'estate in un'ora di grande attualità internazionale. E poi le analisi e i racconti dei grandi eventi del nostro tempo. Risorse e materie prime, ambiente, cultura, letteratura, religione, al di là degli stereotipi e senza censure. Voi andate pure in vacanza, il mondo ve lo raccontiamo noi. Sono Giampaolo Musumeci, anche quest'anno, zaino in spalla, ho viaggiato e indagato storie e fenomeni. Ora riaccendo il microfono per raccontarveli. Se anche voi pensate che nessun luogo è lontano, vi aspetto dal 1 agosto, tutti i giorni, alle 16, qui, su Radio 24. Che cos'è l'Olimpo? Perché è importante fare sport? Come ci si prepara a una Olimpiade? Le domande dei più piccoli, le risposte dei più grandi. Sono Federico Taddia e vi aspetto a terra in vista le Olimpiadi spiegate a mio figlio, insieme al filosofo della scienza, Telmo Pievani. Il mito, la vittoria, il limite, la corsa, ogni puntata una parola per raccontare lo spirito olimpico. E non solo, tante storie e curiosità, e poi le nostre rubriche come Non battere la fiaccola, le animaliedi e la scienza nello sport. Terra in vista, ogni domenica alle 9. Perché l'importante non è vincere, è ascoltare. Ma cos'è quest'estate? Semplice, il nuovo appuntamento con l'attualità di Radio 24. Dal lunedì al venerdì alle 8, le storie di cronaca più importanti, i numeri di un'Italia in continuo cambiamento e un po' di leggerezza sotto l'ombrellone. Ma cos'è quest'estate? Con Elisabetta Fiorito alle 8... su Radio 24. Voice Anatomy. Eccoci, come promesso, signori miei, Voice Anatomy, 31 luglio, ultima puntata di questa prima stagione di questa bellissima, devo dire, trasmissione. Mi piace molto, mi piace tantissimo, e vi ringrazio di avergli dato tutto questo consenso. Ringrazio come sempre le persone che mi accompagnano, che sono un po' più nascoste di me, non sono in voce, anzi oggi ci sono ed era meglio che non ci fossero. Esatto. E invece c'è Clementino dall'altra parte ancora per stare 10 minuti insieme. Clemens, che sta succedendo in questo periodo adesso? Allora, siamo in periodo tournée, ultimo round tour per l'Italia. È uno spettacolo diviso in tre atti, come uno spettacolo teatrale. Tre atti? È un concerto, sì, in tre atti, però è un concerto rap a tutti gli effetti. E, abbiamo iniziato il 17 di giugno, no, il 19 di giugno a Milano, chiuderemo a metà settembre a Napoli, quindi praticamente lavoro per Trenitalia, per all'Italia. Sto sempre in treno, sempre in auto. Ma è quella poi la vita, quando dicono no, bella la vostra vita, eccetera, ma tu vedi le stazioni, gli aeroporti, gli alberghi vicino aeroporti, la stazione, il palcoscenico, le prove, e si ritorna, si mangia intorno a mezzanotte l'una quando ti dice bene, si torna in albergo, si riparte il giorno dopo. E poi ci sono delle città che magari uno va soltanto a suonare, però poi in realtà vede soltanto l'aeroporto. Esatto, è quello. Perché... È come gli steward e le hostess, voi viaggiate, ho capito, ma non ci fermiamo neanche un attimo in quei posti. È comunque una bella vita. Qual è il tuo punto di riferimento, Clementino? Dove, quando hai cominciato a suonare, a cantare? Ma sicuramente Pino Daniele. Grande, poi ho avuto e ho avuto anche l'onore di registrare la sua ultima canzone a dicembre di tre anni fa, e lui mi ha invitato al Palapartenope a Napoli. Abbiamo suonato, sono entrato nel camerino e ho trovato lui con la chitarra che facevo Vient, mi guarda e mi fa: "Wow, Clementi, è proprio bella sta canzone". Che bello. E abbiamo fatto Vient, una volta abbiamo fatto Scarrafone, insomma, lui mi chiamava disgraziato, mi voleva molto bene. Poi un altro riferimento grosso è stato Fabri Fibra, perché Fabrizio, diciamo, che mi ha tirato fuori dall'underground per mettermi nel mainstream, una grossa mano me l'ha data anche Lorenzo Giovanotti, quindi è vero. Con Lorenzo pure c'è questo ottimo rapporto. Lorenzo è un'altra bella persona, grandissimo amico anche lui di Pino Daniele. Mi ricordo un Capodanno, o ora un Natale, di tantissimi anni fa, passato a casa di Pino. Eravamo io, Pino Daniele e Lorenzo Giovanotti, accompagnato dalle nostre rispettive metà, e passammo la serata a parlare, loro a suonare, io ad ascoltarli e a giocare a nomi, cose, frutta e città. Cioè, Madonna, che stile! Ti dico questo, e poi in quel periodo del Pino eravate identici. Sì, cioè, avete una foto in cui sembrate fratelli gemelli. Abbiamo sempre discusso chi è stato il primo a farsi i capelli corti e il pizzetto, io e Pino. E c'è stato a un certo momento personaggi famosi con la I, io ho scritto Insegno, ma Giovanotti ha scritto Giovanotti, ho detto no, è KJ, non è KJ, insomma litigammo piacevolmente. Ricordo quei famosi con la I. Con la I, Insegno. Insegno, Insigne. E ti stanno dati, Insigne ancora c'era, manco Insinna, per cui c'ero solo io. Insegno. Esatto, infatti qualcuno per strada fa: "Ci vuoi fare un pezzo se vuoi?" Pino Insigne, gnì. Fatti confusione questa cosa. Come si può fare? Si può fare un freestyler su questo? Sì. Senti, si potrebbe fare. Sì. Senti, tu hai scritto pure un pezzo che si intitola Il Re Lucertola. È un grandissimo omaggio a Jim Morrison, immagino, no? Lui, Il Re Lucertola. Sì, io sono fan dei Doors e volevo dedicare una canzone a Jim Morrison dopo aver visto il film di Oliver Stone. Esatto, bravo. Vedi che Stone. Mi correggo. The Doors. Anche il personaggio preferito di Alessia Navarro, Jim Morrison, ma di tutti. Una grande icona, sì. E se anche perché era scontato che Clementina ascolta solo il rap, Tupac, Biggie, no? No, esatto, Bon Tags and Harmony. No, esatto, quello, la base è quella, la base della musica. Mercury. Certo, Pink Floyd. Tu pensa che io persi il provino, proprio a proposito del doppiaggio su The Doors, arriva in finale con... chi l'ha doppiato poi? Loris Loddy, ed era difficilissimo da doppiare, perché lui parlava, apriva il film con una poesia sua mentre faceva l'amore con lei, e cominciava però dicendo: "Le luci si spengono in sala, comincia il film", e c'è la differenza fra me e Loris Loddy è che io sembravo Nando Cazzolo che spiegava che cominciava un film al cinema e Loris Loddy invece era veramente strafatto, come era, non che nella vita Loris fosse strafatto, ma la bravura di Loris è stata quella di dare follia a un personaggio folle, quell'ambiguità nella voce che si presta moltissimo a doppiare. Ha fatto un grandissimo doppiaggio, la migliore interpretazione di Val Kilmer in assoluto, no? Sì, perché c'è un altro film dove fu molto bravo, che era Il Santo, però insomma, The Doors ha spaccato, ha ballotto la spuntata, era un altro film. Sì, The Doors, una mia, quanto dura? 3 ore, sembra Ben Hur. Sì, era ancora anche in grazia di Dio Oliver Stone, e poi si è perso un po' strada facendo. Mi fate sentire un altro pezzo molto bello, ma ce ne sono tanti, però La Luce voglio sentire. Un pezzetto, resta con noi ancora 5 minuti con noi, ma 2 minuti della luce. Potevo diventare un grande chitarrista, ma che testa di cazzo che sono stato. Se solo avessi dato retta ai miei, dal tempo che è passato, ora suonavo con una sola mano. Una tempesta di sole dalla finestra della mia stanza, guardavo una città depressa. Volevo essere qualcuno, no uno come tanti, perché alla fine scopri che non sei nessuno. Di motivi familiari ce n'erano fra un nonno camionista e l'altro falegname. Il secondo mi ha regalato un po' di umiltà, il primo essere guerriero nel poter viaggiare. E poi passano gli anni, rimpianti, non ti lasciano serpi a sonagli. Non è facile toccare la luce, nonostante l'energia che il sole produce. Perché sa c'è da là, se sai a rosa fabbrica luce. Tu squagli, siente sti mana che bruci. Si cerca tu ca, si sai essere più forte tu ci può arrivare. Perché sa c'è da là, se sai a rosa fabbrica luce. Tu squagli, siete stimana da bruci, circa tu ca, si sai essere più forte, tu ci può arrivare. il sacrificio viene ricompensato. Non si può fare un edificio con il compensato. Di quanta merda ho ingoiato, ma te l'ho raccontato. Di quanta erba ho fumato, ma te ne ho mai parlato. Di quante volte ho visto i draghi nella notte. Occorre essere Miyagi, certe botte che ho sempre preferito evitare, per seguire quello che era l'infa vitale. La riconoscenza degli amici, pochi sono quelli veri e sanno tutto quel che dici. Un mare di bene per loro, che conoscono come le loro tasche e le mie radici. E quando sento una voce, dice perché è buona se scarta una sul. Quale malamente poi non si discute, ma sicuramente poi cerca una luce. Perché se c'è da là, se sai a rosa fabbrica luce. Tu squagli, senti sti mani che bruci. Si cerca tu ca, si sai essere più forte tu ci può arrivare. Perché se c'è da là, se sai a rosa fabbrica luce. Tu squagli, senti sti mani che bruci. Circa tu ca, si sai essere più forte tu ci può arrivare. Sono un testa di cazzo perché ho smesso di studiare quando ancora il computer con la posta non c'era. Costa crociera, potrei sapere cose che ora non so. Stima scusa non ora, stima fusa in un'ora, stima brucia in malora, malora. Non pretendo mica l'aurora, dietro l'aiuola tornerei a scuola anche da ripetente. Dire questa frase come dire niente, i se, ma se avessi dato non conta pensarlo. Dovresti averlo già fatto come questo pezzo. Prima di adesso non c'era un diamante grezzo. Mi diceva lei sincera, qui in città è peggio. Nel centro della bufera come un generale. Sono un genio, raro suono teme. Rario sotto perle, rario perché so cosa c'è in palio. Resto calmo. Perché se c'è da là, se sai a rosa fabbrica luce. Ti squagli, senti sti mani che bruci. Ti cerchi tu ca, si sai essere più forte tu ci puoi arrivare. Perché se c'è da là, se sai a rosa fabbrica luce. Ti squagli, senti sti mani che bruci. Ti cerchi tu ca, si sai essere più forte tu ci puoi arrivare. Oh sai, oh ma, porta direzione buona e sai che sempre più. Se non circa sta fortuna come sai fa tu. Perché se c'è da là, se sai a rosa fabbrica luce. Tu squagli, senti sti mani che bruci. Se circa tu ca, si sai essere più forte tu ci può arrivare. Perché se c'è da là, se sai a rosa fabbrica luce. Tu squagli, senti sti mani che bruci. Se circa tu ca, si sai essere più forte tu ci può arrivare. Ecco, questa era la luce, l'abbiamo ascoltata, caro Clementino, ma ce ne sono tante, tu anche il pezzo con Tony Spoti, a me piaceva tanto Luna, e poi Tony Spoti, Tullio De Piscopo, poi quella gente lì, Gem Senese, e poi il gruppo di Pino Daniele, quello storico, no? Sì, Napoletan Power, Napoli Centrale, e Tony Esposito poi per noi è sempre stato un grande maestro, come De Piscopo, Senese, Rino Zurzolo. Rino Zurzolo. Niente, no, abbiamo chiesto al maestro Esposito di rivisitare Calimba de Luna e il risultato è stato Luna, il video girato a Ibiza, mi sono ustionato ad aprile, credo. Dove sei ustionato? Schiena? I glutei? A Ibiza mi sono ustionato, sì, la schiena. Esatto, dove? Era quello, no, il posto, sì, certo. Sì, era le spalle e la schiena, sì. Senti, hai aperto il concerto del grande Snoop Doggy Dogg, come lo chiamavo, il primo disco era Snoop Doggy Dogg, poi è diventato Snoop Dogg. L'hai conosciuto, sì, quel sellerone alto? Com'è? Sì, porca miseria, che bomba. Ma non è un po' a me sembra un po' moscio, però, no? Spacca. No, adesso comunque non si chiama più Snoop Dogg, ma si è risoprannominato Snoop Lion. Vabbè. Snoop Lion è praticamente la versione reggae di Snoop Dogg, è diventato Snoop Lion. Sì, ovviamente io lo preferisco rap, lui sì, rappresenta proprio la West Coast, Los Angeles, California, proprio perché moscio sui beat palleggiati spacca, capito? Sì, sono d'accordo. Però io va benissimo, uguale. Ovviamente Natrino mette Tupac su tutto il mondo, guarda, io Tupac pensa che è riuscito a fare 12 dischi da morto. Tupac sono usciti, insomma, pazzesco, sono più di quelli che oh, faccio un pensiero pure te, Clementino. No, chiediamo il featuring. Sta bene Clementino, grazie, perdonaci se ti abbiamo bloccato così a un angolo di un aeroporto, ma sicuramente la promessa è che ci verrai a raccontare la tua vita in studio. Va sicuramente bene? Ci vediamo lì, anzi non bloccati in aeroporto, io sono onorato di essere stato con voi. Grazie Clementino, ci sentiamo, ci vediamo lì in studio assolutamente quando ricominciamo a settembre. Un bacio Clementino, tanta stima, un abbraccio. Grazie. Grande, ciao ragazzi, ciao, ciao. Ciao. Va bene, voi suonatevi, però continua un altro po', no? Rimaniamo insieme ancora con Alessia e Mauro Mecuni. E ascoltiamo qualche altro pezzetto del signor Pino Insegno. Esatto. Ma sì, va bene, dai, facciamo un po' di egocentrismo, tanto ce n'abbiamo già poco. A tra poco con voi suonatevi. Voice Anatomy. Bentornati signori Voice Anatomy, a mio fianco sempre gli autori di questa trasmissione, Mauro Mecuni e Alessia Navarro, per concludere in bellezza questa stagione bellissima, fortunata, grazie soprattutto al vostro apprezzamento, al vostro gradimento. Mauro Mecuni, da bravo autore, ha chiamato una persona che è una chicca, un'altra bella chicca di questa ultima puntata. Beh, un'attrice straordinaria, insomma. Beh, bravissima, giovanissima. Premiatissima. Premiatissima, l'ultimo film è questo straordinario film che è Suburra, dove Greta Scalano ha avuto la parte, una delle protagoniste, la protagonista, sì. Dove sei stata. Greta, sei in linea, vero? Ti abbiamo bloccato. Eccomi. Ecco, so che stai andando in un appuntamento importantissimo. Molto. Dove si monta e si smontano le cose, non diciamo il nome perché sennò è pubblicità, ma tanto l'unico posto dove si montano e si smontano le cose, sappiamo, è un posto svedese. Sì, c'è poco da intuire. Stai andando a fare la cameretta per i pupi, che fai? Sei giovane, per cui... No, quello ancora no, quello è presto. Quanti anni hai, Greta? No. Quasi 30, cioè, in realtà 30. Però di quasi 30, che te frega? Io pure, quasi 60. Ho capito, 27 agosto, sei virginello come me? Io 30 agosto. Ah, va bene, va bene, allora ieri. Sì, praticamente ieri. Senti tesoro, allora, volevo dirti questo, questo film ti ha portato tantissima fortuna, ma tu hai cominciato una scalata già da tantissimo tempo, mi ricordo già i ruoli in Un posto al sole, che comunque ha veicolato tante persone che poi sono approdate nel cinema con la C maiuscola, e Romanzo criminale, un'altra serie. Beh, sì. Personaggio indimenticabile. La moglie dell'amico Scrocchiazzeppi, insomma. Sì, è vero, è vero. Beh, Da Un posto al sole è uscito anche Sorrentino, so che ha girato dei blocchi di Un posto al sole. Anche Sollima. Sollima, sì, sì, ragazzi, si parte da lì. Anche Garrone, se non erro. Guarda, è vero. Può essere. Ma sì, ma guarda, ma i grandi, sì, è una bellissima scuola. Come noi, come al doppiaggio, noi abbiamo cominciato con Febbre d'amore, Falcon Crest, Quando si ama, Valle dei Pini. E quella è palestra vera. Quella è palestra vera, che ti porta poi ad affrontare dei ruoli importanti. Poi Romanzo criminale hai avuto la sfortuna di condividerlo anche con Mauro Mecuni, che era anche un attore. Lì adesso qui è autore, ma lì era attore. Sì, lo so, me lo ricordo. Tu ricordi, me lo ricordo bene. Lui aveva questa recitazione morbida, quasi suadente, in un italiano perfetto. Sì. Allora, lì erano tutti così, Pino, adesso non Pino, ma tu sei così anche adesso, sei autore per fortuna, santa miseria. Per fortuna c'è Alessia Navarro che ammorbidisce, che fa parte del teatro, quell'altro, quello serio. Quanti premi hai vinto quest'anno con Suburra? Qualsiasi cosa, qualsiasi candidatura? Beh, allora, i David no, perché i David proprio su Burra l'abbiamo saltato a pie pari. Eh sì, perché non era, è uscito prima, dopo, no, durante. No, è inspiegabile, no, però è successo. Nel senso che comunque forse è stato un po' penalizzato dal fatto che su Burra è uscito molto tempo prima dei David, e quindi poi dopo i David invece hanno subito tantissimo il fascino, come delle ultime cose, esatto. E però in realtà ho preso comunque il nastro d'argento come miglior attrice non protagonista, che molto a Taormina, è stata una bellissima serata. D'oro. E poi il Chuck d'oro. Ehi, il biografo c'è qui, c'è il tuo biografo, Greta. Sì, è certo, lo so. È una candidatura a che? Ai Globi d'oro. No. Ah sì, è Globi d'oro. Ma lo so meglio. Ho capito come se fosse niente. Greta. Io candidature non le considero, capito? Io solo quando vinco. Lo so, come dice De Gubert, che io non amo, l'importante è partecipare. Secondo me no, l'importante è vincere e saper perdere, attenzione. Bisogna saper perdere. Abbastanza competitiva. No, non è vero. Sempre, no, dai. Io non amo. È il giusto. Ma deve essere così, secondo me. L'ambizione poi deve essere superata da un grado di umiltà, quello sicuramente. Però certo. 1000 d'ambizione, 1001 d'umiltà, ma la grinta ci vuole. Io voglio vincere, e poi vince un'altra persona, la gratifico, l'abbraccio, la saluto, ma non vedo l'ora di rivincere io. Ma è normale, perché la tua... ma poi l'altro giorno ho letto un'intervista di Ibrahimovic, che diceva che mi piace molto, e diceva che praticamente il secondo alla fine è il primo degli ultimi, e quindi lui non gli piace, e quindi insomma bella, non d'accordo con lui. È vero, è meglio. Ne ha fatte pure altre di ste sparate, tipo sì, io sono Dio, non sì, sono una leggenda. Coatto. Sì, non come però, i Beatles. Però è grintosissimo. Sì, no, lui sì, che non è molto simpatico, ma come tutti i grandi campioni, all'ultimo non sono più simpatici. Oppure c'è stato, è un periodo non sono simpatico, essendo un grande campione. No, Mauro, anche tu, siamo antipatici. Cioè, ogni tanto. È vero, Navarro. Ogni tanto sì. Bisogna essere antipatici. No, è vero, l'importante è... noia, no, se no, eh. Ma dai, vincere è bello, dai. Vogliamo dire che Greta, nonostante... Tu sei l'ufficio stampa di Greta Scarano. No, ma io le persone che stimo mi piace pubblicizzarle. Le qual è? Non parli mai di me. Ma parlo sempre di te che pianto. Insomma, dicevi di Greta, dimmi. Beh, nonostante ancora... possiamo dire che insomma è una creatura di soldi, ma no, perché insomma un una creatura di soldi. Una creatura di soldi, ma sì, questo si può dire. Sì. Però lei beh, ha fatto un altro film strepitoso di un bravo regista che è Michela Laik, senza sì, nessuna pietà, accanto a Favino, insomma, tanto per dirne una. Pierfrancesco, come e... sì. Insomma, raccontaci pure insomma di questi ultimi film che stai facendo, che so che sono almeno 5. Guarda, Mauro sta cercando di prendere il mio posto in questa puntata, che ho dato vedi voce agli altri. Si inserisce con le domande, con la, nella scaletta. Perché proprio sa che quando mi scrive le domande io non le faccio, e si incazza dall'altra parte, dice la sei. Non la lo fa più terrore che mi inviti dentro trasmissione, però sa che te seguo, dai. Non lo farò mai più. Insomma, la domanda è fatto che quanti sta facendo 5 film? No. No, 5 no, però ho girato un film di Faenza che uscirà a di Roberto ottobre. Faenza. Sì. E poi sto girando Smetto quando voglio, Reloaded e Revolution, che sono i li girano a due quelli come Matrix, sì, esatto. È come Matrix l'hanno chiamata, hanno fatto la saga e uscirà poi a febbraio il secondo della saga, della trilogia, e poi più avanti il terzo, che però non, ancora non so quando. Ma bellissimo, Reloaded, voglio dire a Stefano Fresi che non me l'aveva detto che c'era Revolution, sì, certo, c'è anche Stefano, è stato ospite, esatto. Carino. Posso chiedere una cosa a Greta da attrice sono... attrice, vai Alessia, certo, ciao. Hai fatto una, ovviamente una lunga gavetta, tanta fatica, però questo successo possiamo dire che è arrivato un pochino tutto insieme come un ciclone. Come l'hai vissuto? Che effetto ha avuto su di te? Ma guarda, ti dico la verità, un po' ero preparata, perché comunque l'anno scorso Senza nessuna pietà, seppure non ha avuto molto successo di pubblico, nel senso che al botteghino non è andato benissimo, sì, ahimè, perché è uscito non benissimo. Però il mio lavoro era stato notato, e quindi l'anno scorso sì, avevo comunque sono stata premiata con diverse cose, e diciamo era un po' per gli addetti ai lavori è stato un grande film, certo, poi e sono sì, gli addetti ai lavori poi quelli, certo, che ti danno la possibilità di continuare. Sì, certo, e poi comunque la cosa fondamentale è che quando un attore viene premiato è veramente emozionante, perché capisci che il tuo lavoro viene considerato, perché uno può fare sì, un bellissimo film, però poi se non lo vede nessuno, due se non ti premia, insomma rimane un po' così. Invece, certo. Quindi in realtà io questi riconoscimenti per Suburra, cioè, mi fanno molto felice, ma sono comunque, rimango sempre una persona molto molto umile, cioè non sono molto diversa da prima, cioè non, in realtà non mi è cambiato sconvolto assolutamente niente, ecco, vai sempre no, nei posti per montare le camerette, esatto, con grande umiltà, con grande serenità. Io voglio dire una cosa, no, che conoscendo Greta da ormai non lo so, più o meno quasi 10 anni, mi disse, non so se questo posso dire. Beh, lei stai dicendo. Però lo dico. È bella, ma è una cosa che si può no, dire. Sì, fa capire molto di Greta. Ah. Lei ha sempre detto: un giorno parteciperò alla notte degli Oscar. Quello, ma c'è, ma e io glielo auguro e se lo merita. Sì, ma per arrivare come protagonista, ovviamente, cioè, vabbè, nel come senso, attrice, come certo, attrice, certo, perché sennò uno prende a dubbi. E beh, conviene farla vincere, se no questa spacca tutto. Lì. No, devi fare il sorriso, lo dicevamo prima, che gli attori americani sono straordinari, perché gli eroderà pure a loro quando perdono. Però hai visto quando li inquadrano, sì, e sì, vince uno dei cinque, gli altri sorridono, sì, si commuovono, sì, e si applaudono. Ma lo sapete che prendono un sacco di soldi quelli candidati, anche se non vincono? Te credo che ridono, mi sembra $250,000. Tutti uguale. Sei sicuro? O Mauro, vinci o non vinci? Ragazzi, te lo garantisco. Siamo a Radio 24, la radio di Confindustria. Qui te lo garantisco. Attenti, economia e finanza sono attenti qua. Cioè 250 mila dollari. Mi sembra 250 mila dollari a tutti, o vinci o non vinci, quindi ridono sì. Allora Greta, ah, certo, andiamoci due o tre volte, perdonami. Cioè, facciamoci candidare prima due o tre volte, poi andiamo a vincere. Poi perde, poi ridi sì, dici che me frega, tanto piango in Mercedes quando torno, no? Che me frega. Certo. Ah, così, questa è la cosa che non sapevo, sì, però sì, comunque sono più... intelligenti di noi da quel punto di vista, collaborano un po' di più, l'abbiamo detto già una volta in questa trasmissione di oggi, sono molto più attenti nelle collaborazioni, nei featuring. Beh, c'è un sistema, c'è un'industria che a noi, certo, ci manca purtroppo. Purtroppo sì, qui si corre, meglio io, arrivo prima l'altro e poi si muore, invece no, bisogna aiutarsi. Non si fa gruppo, è vero. Quando hai capito invece che sarebbe... sono molto solidale. Sì, con, e bisogna con fare le mie così. Colleghe. Urliamo proprio a, lo ridico ancora una volta, il successo non può essere l'insuccesso di un altro, il tuo successo non può essere è questo, vero, perché è livore, perché implodi, perché non è giusto, per cui che vuoi fare da grande, Greta? Beh, c'ha ragione Mauro, voglio vincere l'Oscar, quindi insomma... Brava! Anche perché lei parla un americano... Ah, come me, insomma. Impeccabile. Come te vi... Io a me mi prendo in giro perché io purtroppo li doppio. No, tranquilla, non riesco a mettere in ordine due parole. Abbiamo segno zodiacale, allora... Esatto, invece... sono molto preciso. Tu calcola sì, che io in inglese sono un fenomeno in confronto a Pino e ti ho detto tutto. Ecco, allora ho capito. Io tanto li doppio, non mi frega niente, io li rimetto in italiano, per cui non mi interessa niente. Greta tesoro, ti ringraziamo, ti abbiamo incastrato al volo, non vogliamo farti perdere altro tempo, però so che ti incastreremo, no, fatto molto piacere, di persona qui a Radio 24 e parleremo magari del tuo nuovo successo, del Reloaded e dell'altro Revolution, certo. Revolution e magari di qualcos'altro che sicuramente sta in cantiere. Greta, buona domenica, grazie ciao, davvero, grazie, un bacio, grazie, un bocca al lupo tesoro, ciao. E noi andiamo avanti ancora un minuto per chiudere, cioè, questo. Un minutino, insomma, sì, piano, no, d'ospite. Tutti reagiscono sempre bene a Voice Anatomy. Questo è merito tuo, Pino, insomma, che hai reso una trasmissione che all'inizio, insomma, non conosceva nessuno perché era un'idea nuova e diventava, sì, già un piccolo cult. Sì, è vero, è vero. No, ci raccorgiamo che tanti nostri colleghi ci chiamano e ci cercano per, sì, poter venire a presentare parla, magari uno spettacolo teatrale, un disco, eccetera. Ma anche... La vostra forza è stata quella di intuire che, a parte l'attore, il doppiatore, il cantante, sì, quelli che usano la voce ovviamente, la cosa bella è stata avere ospiti dei maestri, dei tutorial, dei professori, degli etnomusicologi, dei ipnotisti. Questo è il merito, è tutto d'Alessia. Dice un valore aggiunto, ognuno porta qualcosa, porta un'idea, porta un'intuizione, questo è il bel risultato di persone, sì, che però che la cosa bella insieme è che resta nazional popolare, insomma, quello che si era stato richiesto all'inizio, sì, anche dalla radio, sì, di ammorbidire la domenica per renderla un po' più, veicolarla di più in una radio molto importante dove dal lunedì al venerdì, a parte le altre trasmissioni, ci sono qualcosa di più leggero, ma c'è Economia e Finanza che fa da padrona. Giustamente gli stessi ascoltatori vogliono farsi una passeggiata e questa è stata anche l'intuizione di Roberto Napoletano, di Barisoni, insomma, e tutto il loro staff, di cominciare magari un percorso che avvicini alla radio anche il sabato e la domenica, che sono giornate leggermente più difficili da affrontare, soprattutto per noi che andiamo contro il calcio, ma poi c'è tutti convocati, un'altra bellissima realtà della domenica, detti soprannominati da me, ma è una gioia. A tra poco con Boisana. Dalla Brexit all'immigrazione, dall'Europa alla Cina, dall'Iraq a Molenbeek, tutti i temi più caldi dell'estate in un'ora di grande attualità internazionale. E poi le analisi e i racconti dei grandi eventi del nostro tempo. Risorse e materie prime, ambiente, cultura, letteratura, religione, al di là degli stereotipi e senza censure. Voi andate pure in vacanza, il mondo ve lo raccontiamo noi. Sono Giampaolo Musumeci, anche quest'anno, zaino in spalla, ho viaggiato e indagato storie e fenomeni. Ora riaccendo il microfono per raccontarveli. Se anche voi pensate che nessun luogo è lontano, vi aspetto dal 1 agosto, tutti i giorni, alle 16, qui, su Radio 24. Voice Anatomy. Sempre Voice Anatomy, sempre Pino Insegno ai microfoni di Radio 24 con Mauro Mecogno alla mia destra e alla sinistra Alessia Navarro. Stiamo facendo quest'ultima puntata, stiamo navigando a vista in quest'ultima puntata perché insomma era giusto fare una puntata più leggera, anche se abbiamo avuto degli ospiti bellissimi da Vittorio Stani. Abbiamo aperto con Luca Ward, che era la sua festa, la promessa. Li abbiamo chiuso in caciara praticamente. No, perché no, anzi, no, perché se dici noi tre tutte e tre insieme, no, poi abbiamo avuto Vittorio Stani, un bravissimo attore e doppiatore, Clementino bloccato all'aeroporto, Greta Scarano, attrice emergente, già vincitrice di moltissimi premi, e insomma stiamo navigando così, e parliamo sempre ovviamente di voce con grande gratificazione. Dimmi Navarro, mi stai guardando negli occhi, stai per dirmi qualcosa? Sì, no, noi tornando un attimino al doppiaggio, noi prima abbiamo ascoltato il tuo pezzo Il Signore degli Anelli, sì. Però secondo me non è stato anche Borat. Bellissimo, Però per quanto mi riguarda il tuo doppiaggio più bello è stato L'Esercito delle 12 Scimmie, dove doppiasti Brad Pitt. Sì, ce l'abbiamo, Ale? Dai, grande, adesso, mandiamolo. Un pezzo, no, un film, Una follia di Terry Gilliam, dove Brad Pitt fu candidato all'Oscar, si fecero dei provini lunghissimi, poi ovviamente lo doppia sempre e spesso Sandro Acerbo. Lì è stata un'occasione, poi c'è una gag fra me e Sandro Acerbo dove un giorno lui mi dirigerà mentre io doppierò ancora Brad Pitt. Però questo film è straordinario, se non l'avete visto, 12 Monkeys, guardatelo. Tu sei bipolare vero lì. Sì, lui è folle vero, in questo manicomio dove lui parla con Bruce Willis. Si incontrano per la prima volta là e lui gli parla in questa follia, film difficilissimo, diretto da Marco Guadagno, dove lui ha avuto questa intuizione, dice doppiagli le mani, perché lui improvvisa tantissimo e si tè i tempi con le mani. Fu veramente complicato, veramente complesso. Ascolta. Lo sai che cos'è pazzo? Pazzo è quello che impone la maggioranza. Già. Ah. Prendi i germi, per esempio. I germi? Nel XVIII secolo non esistevano mica. Nada, niente. Chi l'avrebbe mai partorito un'idea del genere? Certo, non lo sanno di mente. Poi arriva questo dottore. Samuel Weiss. Samuel Weiss un bel giorno arriva e cerca di convincere la gente, gli altri medici soprattutto, che esistono questi piccoli, invisibili cosi chiamati germi che ti entrano nel corpo e ti fanno ammalare. E li convince. Convince i dottori che è giusto lavarsi le mani. Che cos'è questo? Un pazzo? Queste cose invisibili, come li chiami tu? Germi? Come? Ora... facciamo un salto nel XX secolo. Una settimana fa, prima che mi ficcassero in questo buco dell'inferno, ho ordinato un hamburger in un fast food merdoso. Un tizio lì me lo fa cadere. Jim me lo raccoglie, lo spolvere come se niente fosse, me lo ridà tutto tranquillo. E i germi, dico io? Lui risponde, i germi non esistono, sono soltanto un'invenzione creata apposta per vendere disinfettanti e saponi. Come lo vedi? Lui è un pazzo, giusto? Chiaro. Non c'è giusto, non c'è sbagliato, conta solo l'opinione della gente. Tu credi nei germi, vero? Io non sono pazzo. Certo che no. Tu vorresti scappare, vero? Allora sei sano, sei sanissimo. Ti posso aiutare. Tu lo vuoi, vero? Ti faccio uscire. Sai come si fa uscire? Sì, passerò. Perché tu non lo fai? Perché io non scappo, è questo che vuoi sapere, vero? Bella domanda, gran bella domanda. Intelligente. Perché io sarei un pazzo a scappare. Io ho contatti con l'esterno. Io ho chi si occupa di me. Che cosa vuol dire? Io sono riuscito a contattare certi subalterni, spiriti maligni, segretari di segretari, altri assortiti, tirapiedi, i quali avviseranno mio padre. E quando mio padre scoprirà che sono in questo cazzo di posto, mi trasferirà in un merdoso ricovero di case. Dove ti trattano con rispetto, come una persona, come un ospite, con gli asciugamani, le lenzuola, come un grandissimo hotel, con droga di lusso, per tutti i riciclabili, squinternati, maniaci e diavoli! Scusate, io mi sono un po' agitato per un attimo, ho pensato di scappare e all'improvviso mi è venuta voglia di piegare queste fattute sbarre e di sfasciare queste maledette finestre e mangiarmele, saltare, venite, c'è un cristallo per tutti! E va bene, teste di cazzo, i malati mentali danno sempre in escandescenza. Sarà da ridere quando scoprirete chi sono. Mio padre si arrabbierà molto per questo e quando mio paperino si arrabbia la terra intera trema. Mio padre, addio! Io venero, mio padre! Madonna, che bravo Pino, quante intenzioni, quanti colori. Hai vinto. Meraviglioso. E soprattutto bisogna dire agli amici a casa che Pino, dopo quanto è passato? 30 anni quasi? 20? No, 20 anni. 20 anni, sapeva le battute a memoria di tutto il pezzo. Sì, e questo è incredibile. No, ma fu una fatica enorme, perché lui improvvisava tantissimo, per cui doppiare uno che improvvisa... Seguirlo, seguire la bocca, è difficilissimo. Lui poi è stato bravissimo, è stato candidato all'Oscar, si mise addirittura gli occhi marroni, le lenti a contatto marroni per imbruttirsi un po', per non essere il Brad Pitt solito, perché lui veniva da un periodo il Brad Pitt bello, era ancora, non aveva fatto niente di strano, e questo lui ha paura di essere avvicinato a quel Brad Pitt. Comunque male che va, è sempre comunque bello. Tra comunque tra i due, tra Bruce Willis e Brad Pitt, diventerebbe no, ma diventeresti bipolare in un mezzo secondo. Io la farei da Dio quella scena. Così ti andai a bagno a fare la cacca. Bellissimo. No, ma fu veramente complesso e ci mettemmo veramente tanto, perché legato, mi ricordo che Marco mi legò la cuffia alle orecchie. Marco Guadagno mi fece imparare a memoria il pezzo, Toglielmo il leggio. Ma era perché tutto il film è così, lui, tutto il film è folle, bravissimo, strepitoso. Ha vinto qualche premio lui? Non fu candidato solo, no, vinse il Globo d'Oro, vinse un po' di premi, non l'Oscar. Lì si aspettava, perché lì non credo gli capiterà più un film del genere, un film folle, visionario, Terry Gilliam, e così veniva da film straordinari come Brasile, cioè lui è uno poi dei Monty Python. È stato l'unico film che in cui l'hai doppiato, credo. Sì, è stato l'unico film, l'ho doppiato poi in un cartone animato dove lui era la voce di Sinbad e io l'ho fatto in italiano, assomigliava più a me che a lui perché c'era il pizzetto, i capelli neri, eccetera, eccetera, eccetera. Per cui, ecco, allora, siamo arrivati, abbiamo ancora 6 minuti di questo blocco e abbiamo... state parlando di me, non volevamo fare una trasmissione, anche se a ogni attore un po' egocentrico gli piace parlare, no, un po' anche di se stesso. Ci stiamo dedicando gli ultimi che ha invitato minuti, no? Gli cioè, ultimi doppiatori più bravi per questa stagione. Te fai parte dei doppiatori per più bravi per questa stagione. Tu mi hai dato pure un foglio che vuoi che legga questa... Sì, a me Mauro piacerebbe che leggessi una poesia. Eccola, è quella di Kipling questa qua. Già. Bella. Dedicata ai figli. Sì. E dedichiamola a un figlio, va. Va bene, sì, di Rudyard Kipling. Se saprai mantenere la testa quando tutti intorno a te la perdono e te ne fanno una colpa, se saprai avere fiducia in te stesso quando tutti ne dubitano, tenendo però considerazione anche del loro dubbio, se saprai aspettare senza stancarti di aspettare, o essendo calunniato non rispondere con calunnia, o essendo odiato non dare spazio all'odio, senza tuttavia sembrare troppo buono né parlare troppo saggio. Se saprai sognare, senza fare del sogno il tuo padrone, se saprai pensare, senza fare del pensiero il tuo scopo, se saprai confrontarti con trionfo e rovina e trattare allo stesso modo questi due impostori, se riuscirai a sopportare di sentire le verità che hai detto distorte dai furfanti per abbindolare gli sciocchi, o a guardare le cose per le quali hai dato la vita distrutte e piegarti e ricostruirle con i tuoi logori annesi. Se saprai fare un solo mucchio di tutte le tue fortune e rischiando in un unico lancio a testa e croce e perdere e ricominciare di nuovo dal principio senza mai far parola della tua perdita. Se saprai serrare il tuo cuore, tendini e nervi nel servire il tuo scopo quando sono da tempo sfiniti, e a tenere duro quando in te non c'è più nulla se non la volontà che dice loro tenete duro. Se saprai parlare alle folle senza perdere la tua virtù, o passeggiare con i re rimanendo te stesso, se né nemici né gli amici più cari potranno ferirti, se per te ogni persona conterà ma nessuno troppo, se saprai riempire ogni inesorabile minuto dando valore ad ognuno dei 60 secondi. Tua sarà la terra e tutto ciò che è in essa, e quel che più conta, sarai un uomo, figlio mio. Beh, ma è bella questa, bella. Vabbè, no non è bella quella, Pino. È bella quella, Pino, non è bella quella. È bella, è diventata la radio Monteverde International. Dato, amici miei, te l'avevo detto io una volta al telefono, che ti ho detto: Pi, se c'avevo la voce tua, faccio l'amore solo al telefono. Facevi i soldi con i numeri quelli 166, eccetera, eccetera. No, magari io lo ripeto e lo urlo, sì, la voce è bella, aiuta sicuramente. Però sono le intonazioni, sono le pause, sono, come ha detto il grande Albertazzi nella nostra prima puntata di Voice Anatomy, sono i silenzi a fare la differenza. Sono i silenzi che sono molto, ma molto intensi. E io magari ce n'ho pochi di silenzio. Vabbè, ma la radio non permette lunghe pause di silenzio. Ma neanche la vita quotidiana. Che c'entra? Adesso non raccontiamo la quotidianità della vita di una persona che fa questo mestiere. Siamo uguali a tutti. Siamo uguali, abbiamo gli stessi problemi. Ci svegliamo la mattina, dobbiamo lavarci i denti. Sì, insomma, sì. Le solite cose. Insomma. Per parlare con Pino, ti devi inserire nelle pause, ma svelto immediatamente. Di diceva, diceva sempre Francesca Traghetti quando lavoravamo con la premiata ditta. Dice Pino, quando esci di scena, casomai metti un cartello, torno subito, capito? Ma gente, non ti preoccupare, sta tranquillo, ci possiamo rimanere pure noi da soli. No, ma quella è la voglia, non è la voglia di apparire, di stare al centro dell'attenzione. Può essere fraintesa questo egocentrismo, ma è soltanto la voglia di dare, voler dare alla gente un sorriso. Sì, è anche sintomo di insicurezza, perché cerchi la sicurezza nell'applauso degli altri, nel sorriso degli altri, ma... da questo punto di vista, dal mio punto di vista, è proprio la voglia di dare gioia, di non avere punti morti nella vita e riempirli. Certe volte magari esageri, perché magari pure dei silenzi o delle pause o sapere ascoltare forse è la cosa migliore. Navarro, so che tu invece devi scappare in quest'ultimo momento, sì, stai andando a preparare una cosa importante. Vi saluto e... noi abbiamo un altro blocco insieme. Sì. Però... colgo l'occasione per salutare tutti quanti i radioascoltatori, tutte le persone che ci hanno seguito con il loro affetto, con la loro presenza, e ripartiremo alla grande da la prima domenica settembre. Credo che sia il 4 settembre, se non sbaglio, la prima domenica. Lo Wag World già ha promesso di essere qui da noi, e allora va bene. Quindi grazie a tutti, Valerio, Alessandro, Gaia, Mauro, e grazie Pino, grazie a te. Grazie a tutti voi, anche se abbiamo un altro blocco, non scappate ovviamente. Grazie anche a Milano, perché ci sono anche grazie loro anche a Milano, che ci seguono tantissimo, ci permettono queste condivisioni di dirette, anche l'emissione della pubblicità, i tempi, insomma c'è una collaborazione stretta con i tecnici a Milano, tecnici e tecniche. Che ho scoperto, va bene, essere della stessa fede calcistica di Valerio, e mi hanno trattato male anche a Milano, ovviamente in maniera goliardica. Allora, a tra poco per l'ultimo blocco insieme di questa ultima puntata di questa prima stagione di Voice Anatomy. Restate con noi, a tra poco. Voice Anatomy. Con un po' di tristezza velata affronto quest'ultimo blocco di quest'anno, di questa fortunata stagione radiofonica con Voice Anatomy, anche grazie a Radio 24, e volevo chiudere un po' in famiglia, ma in famiglia però intonata comunque al tema della trasmissione, che è quello della voce in tutte le sue declinazioni. Allora, avendo la fortuna di essere nipote d'arte, figlio d'artri, ma nipote d'arte, ho chiamato zia. Chi è zia? L'abbiamo sentita una volta, lei è un'assidua frequentatrice della radio, di questa trasmissione, non perché io sia suo nipote, ma perché anche lei si è innamorata di questa alternanza di personaggi che possono aver fatto compagnia, di maestri della voce che possono aver anche regalato qualche perla di saggezza con qualche piccolo tutorial che affronteremo magari più intensamente la prossima stagione. Lei è, anche lei è sorella d'arte, visto che Maurizio Arena era nostro zio, mio zio, grandissimo attore degli anni 60, film indimenticabili, bello come il sole, dotato fisicamente di una grande fisicità, insomma si è preso tutto lui in famiglia. E lei invece ha cominciato anche lei in questo panorama artistico con dei film eccezionali, è stata la prima Erminia dei film con Alberto Sordi, la ricordiamo nel Comune Senso del Pudore, Le Coppie, eccetera eccetera. Lei è Rossana Di Lorenzo. Rossana, ci sei, zia? Ecco. Ci sono. Ecco la zia, sei svegliata adesso. Sì, dormi il pomeriggio. No, tu mi ascolti, no, per cui no, sei stata... No. Mi no, stai no, a sentire. Ma io ascolto molto, eh. Zietta, quanti anni hai adesso? Ma vicino adesso, all'80. No, adesso ce n'ho quasi 79. Quasi 79. E arrivi a 80 fra poco. Ho tanta voglia di sentirti, per cui ti ho chiamato un po' prima degli 80. Zia Rossana Di Lorenzo, quale film hai cominciato? Qual è stato il tuo inizio proprio? È stato già con Le Sordi? Coppie. Le Coppie? No, aspetta, il presidente del Borgo Rosso. Ah, Football Club. Perché lui mi ha fatto il provino che era fuori, che stava girando quel film. Mm-hmm. Io sono andata a Ravenna dove lui era, e mi ha fatto il provino, è andato bene, ma mi ha cercato lui, non ho fatto proprio niente, perché ma non ci pensavo neanche. Ma come ha fatto a scoprirti? Scusami, ha parlato con Maurizio Arena, con tuo fratello? No. Maurizio stava in Messico a vedere Olimpiadi. Ma lui è un grande sportivo anche. E tu, così? Niente, io c'ho un amico che abitava qui, che lavorava sempre con lui. Uh-huh. Questo mi telefona, mi dice: Rossana, sto Armando. Dico: dimmi, Armando, che c'è? Sapevo che stava lavorando, ma che ne so. E mi dice: te cerca Sordi? A me mi cerca Sordi, ho detto. E che posso essere utile, perché io so per Sordi? Dice: te vuole come protagonista nel film Le coppie che deve girare in Sardegna. Allora io ho detto, dico, ma io non ho mai fatto niente, però avevo pensato a uno scherzo. Mm-hmm. E beh, si posso immaginare. So burlona, sempre stata burlona, dico, magari avrò fatto uno scherzo io che non mi ricordo e lui si può vendicare. Allora, però, sai, io sono un po' tignosa, gli ho detto: senti, se mi cerca Sordi, digli di chiamarmi domani alle 2 che rispondo io al telefono. Hai sposato così, vedremo se è vero, dici. Hai capito, perché io pensavo uno scherzo. La voce non è cambiata la tua, zia, da quando facevi questi film con Mario Brega, con tutti, Vacanze di Natale, eccetera, non sei cambiata tanto. Non sei cambiata per niente. Insomma, ti ha chiamato Sordi il giorno dopo alle 2? Esatto, mi chiama e mi fa: Rossana. Ho capito subito che era lui. Che era Sordi. Dico: buongiorno, come va? Dice: io bene, tu come vai? Dico: bene, bene anch'io. Dice: io te vorrei con me in un film che fai mia moglie. Io ho detto: ma io non so all'altezza, non ho mai fatto niente, non ci ho mai pensato. Dice: ma tu non ti preoccupa. Dice: io ho soltanto una cosa, non c'ho tempo da venire a Roma, perché stava a Ravenna, finì di girare. Dice: però c'è poco tempo, perché agosto dobbiamo partire, andare in Sardegna. Allora gli ho detto, dico, vabbè, che devo fare in sostanza? Mi ha detto, dice, però devi venire su. Vieni su, o perché il provino te lo faccio mentre lavoro. Ah. Allora io gli ho detto, ma io c'ho un bambino, io c'avevo mio figlio che c'era 4 anni e mezzo, una cosa del genere, 5 anni. Allora mi hanno detto, dice, porta pure lui, che problema c'è? Ah, io ho preso un ragazzino, una valigetta e sono partita. Ma pensavo più all'avventura così, dico, male che va, mi faccio un viaggetto, insomma, niente di più, perché non ci pensavo proprio. Invece ho fatto sto provino, che ho fatto una parte della moglie dell'altro presidente del Borgo Rosso. Mm-hmm. E lui mi ha detto: guarda, va benissimo, soltanto quando vai a Roma mi ha scritto tutto quello che dovevo fare per la parrucca, che poi la parrucca non mi è servita, c'avevo i capelli belli miei, neri, belli lunghi, cotonati, lunghi, qua la cucuma in testa c'avevi. Erano i miei, sì. Tipo la Orfei stavi combinata. I tuoi erano i tuoi quasi. Sì. Ma tu pensava che avessi un altro tipo di capelli, che ne so, insomma, fatto sta che poi mi è servito, gli è servito solo da pettinarmi come volevano. Uh-huh. Ma i capelli erano i miei. Però sono andata per i vestiti, ho fatto tutto quello che dovevo fare. Quando è sceso lui, abbiamo cominciato a lavorare sul lungomare di Ostia e poi siamo partiti subito per Sardegna. E lì è andata benissimo, perché dopo ti ha riconfermato nel Comune Senso del Pudore, è venuto subito dopo. Sì, ma dovevamo fare pure un altro film in Russia, che non è stato più fatto, ma io non ho mai chiesto, perché sai, io sono una che se mi cerchi ci sono, ma se non mi cerchi non ci sto. Certo. E allora è andata così. Quello mi dispiaceva, perché mi sarebbe piaciuto andare in Russia. E fa freddo, Zilli? Fa freddo tanto. Vabbè, ma io so proprio più il caldo che il freddo, eh. Eh sì, tu c'hai una bella ciccetta intorno ancora, Ancora sì. E quello sì. È stato proprio l'inizio della carriera, che poi ti ha portato a fare tantissimi film. Quanti ne hai fatti poi, Rossana? Una trentina, guarda. Hai capito? Poi tutti i film anche importanti, perché ha fatto anche Ballando e Ballando con Ettore Scola, un film che è stato candidato all'Oscar. Sì, ah, lo sai pure te. Lo so pure io, sì, è lavoro mio, santa miseria, almeno saperlo, non partecipare, ma saperlo. Poi hai fatto anche un film, qual hai fatto, Il giardino di Finzi Contini, qual hai fatto? No. Qual era quello che hai fatto con De Sica, con Visconti, che l'hai fatto, non mi ricordo. No, aspetta. Dimmi Dezzi. Ho fatto due filmi con Bolognini. Filmi perché è plurale, ragazzi, filmi perché è plurale, se no è film. Allora, un film con Bolognini è L'eredità Ferramonti. Ferramonti, ecco qual era, sì. È vero. Apposta, io ho pensato subito che dicevi quello, sì, perché quello. Io tutte le scene ho 10 pose, ma tutte con Anthony Quinn, come ha chiamato, sì? Che voi romani, John Vaine. Anthony Quinn. Brava, sì, così te voglio, perché insomma, tu poi sei di Roma, no, sì? Io sono Garbatellana. Garbatellana, che è un quartiere ovviamente di Roma, molto storico. E dopo Il comune senso del pudore, invece lui ha cominciato a cambiare un po' la partner vicino a sé, da Anna Longhia. Ma era pure più giusta vicino a lui, dico la verità, perché io ero più alta, sempre con i zoccoletti sono dovuta camminare. Ah sì, era per quello, ma anche perché credo che lui volesse proprio cambiare di volta in volta, anche per non dare troppo spazio magari. Anche quello, certo, no? Protagonista. Monotona la cosa. Però è bellissimo questa avventura. Tu che hai cominciato e poi con Mario Brega in Vacanze di Natale, indimenticabile quel momento di Vacanze di Natale. Eppure... Ecco, quello è stato un film per me bellissimo, perché c'è stata l'opportunità che era tutta la troupe, che eravamo tantissimi attori e stavamo tutti nello stesso albergo. Ah, per cui siete proprio divertiti la sera quando finivate di girare. Era uno spasso tale, che era un divertimento continuo. C'erano, guarda, tutti, c'era De Sica, Jerry Garcia, c'era il mondo, era il primo film di Natale, insomma, di un certo tipo. Vero, sì, che ha lanciato un po' quella moda del film natalizio ed è andato pure parecchio bene. E come diceva Mario Brega, eppure sto Natale, come era? Eppure sto Natale? Come... Lo siamo levato dalle palle. Frase storica che veramente tutti la pensano, ma nessuno la dice a Natale. E poi lo dico sempre, ho detto anche altre volte, tu hai detto una delle frasi più belle per raccontare una persona inutile, dice, quella buttarla in peccato ma tenerlo che ce fai, che è bellissimo. Eppure resiste ancora, non cambia niente. Non cambia niente. Va bene, Rossana Di Lorenzo, anche detta zia mia, qui vicino a me, mi è venuto a trovare, ormai viene la domenica ogni tanto a controllarmi, c'è Matteo che ti saluta, che è tuo nipote. Ciao zia. Ciao zia. Vedi. Digli che io ho telefonato e non mi ha richiamato. Ecco, non hai capito che figura che hai fatto. Provvederò. Sgridalo. Andiamo, provvederai, sentito come parla a piccoli cenni. Va bene. Zia, d'abbraccio forte. Un bacione a tutti. E grazie. Ciao zia, ciao. Grazie a te, ciao bello, ciao. Un saluto a Rossana Di Lorenzo, era ovviamente chiamando la zia, dice questo chiama le persone a casa perché non c'ha tempo di telefonare. No, zia, Rossana è un personaggio straordinario, veramente, è una persona alla quale vogliono bene tutti, a prescindere dalla parentela. Bene, ultimi 44 secondi insieme. Voice Anatomy non finisce qui. Agosto continueremo a tenervi compagnia con il meglio di, per qualcuno che magari si è perso qualche puntata, ha avuto la possibilità di scaricarsi i podcast perché non c'era wifi o qualsiasi altra motivazione, continuerà a tenervi compagnia. Noi ci prepariamo già per la prossima stagione, per settembre, cominciando dalla grande. Abbiamo sentito Luca Ward, con il quale insieme faremo questo masterclass 007@yahoo.com, e lì potete prenotarvi e sarà il nostro primo ospite insieme a tantissimi altri. Ringrazio la redazione di Voice Anatomy, di Radio 24, nella figura di Gaia. Ringrazio Alessandro e, nonostante tutto, anche Valerio. Ringrazio Mauro Meconi e Alessia Navarro di cuore per essere stati degli autori straordinari e continueranno adesso. Ringrazio Roberto Napoletano, il chairman e Sebastiano Barisoni, e ringrazio tutta Radio 24, ovviamente anche nelle persone, i tecnici di Milano che ci sono vicini nonostante siano abbastanza lontani. Grazie a tutti voi di averci dato la possibilità di portare avanti questa trasmissione fortunata che ha avuto il suo climax in questo premio, che ringrazio ancora Ennio Flaiano per la miglior trasmissione radiofonica dell'anno, senza nulla togliere alle altre bellissime trasmissioni di tutte le radio, soprattutto ovviamente, lasciatemelo dire, di Radio 24. Sono veramente orgoglioso di far parte di questa famiglia. Grazie, Voice Anatomy torna.